sbagliato. Ehi, ciao sta. Beh, giustamente fanno bene a 13 ancora. Che ora sono? Le 4 e 7 minuti. Dillo il malanno. Chiudi la finestra, ciao Marco. Caspita, è abbastanza, non so che farò d'aria qui dalla finestra. Ciao fra. Sono dei ritorno da Luciano, sono andato con mamma, ci ho mangiato la cosa a McDonald's, gli altri caffè, poi ho preso proprio due cose, due da Luciano, siamo ritornati. Siamo rimasti soddisfatti, dai. Oggi proprio avevamo un po' di roba di McDonald's, alla faccia di tutti quelli che dicono che chissà cosa ci mettono dentro. Ma se c'è di peggio, guarda. No, c'è gente molto prevenuta, chissà che carne è, ehi, c'è la carne umana. Vabbè, certo, non si può dire che siamo ristoranti 5 stelle, ma veramente oggi proprio ne ho voglia, ci ho rimasto soddisfatto. Ma poi, vabbè, abbiamo mangiato poco, solo un cheeseburger a testa e patatine grasse, e boom. Mica abbiamo panoni grandi, no? Non ci stanno nel mio piccolo stomaco, capito? Una volta lo facevo, e che panini, minchia. E una volta riuscivo a mangiare anche i panini di Agostino Delinna, quelli di Grattacielo. C'era un panino chiamato Grattacielo, era una cosa allucinante. Su un piano c'era una buglia, sull'altro piano c'era quella specie di grande brusto impazzito, no? Sull'altro piano un'altra roba ancora, tipo lo specchio. Non ce la farei più, quella storia antica. Oppure quei panini via Roma, di coso, come si chiama? Renato, la fine del mondo. Ci sono ancora tutte e due, cioè Tettino De Villa, credo che ci sia ancora lì giù, sotto Piazza d'Italia, che è quella che sale dall'emiciclo verso Piazza d'Italia. Qui tanto andavamo anche noi lì, quei paninozzi, anche il Capriccio lo faceva buono. E poi Renato, vabbè, Renato è un mito. Sì, Renato è un mito. E Agostino Lirina e De Sporco e tutti i sporchi sono locali. Se vuoi vedere mi hai detto bottega, ma c'è il salvo uno. Ah, no, c'è ancora un altro. Ui, dopo gli ho preso di casa. Dicevo, non c'è nei retro bottega, sono tutti vicini male i locali. Io mi ricordo un panino in particolare di grattacielo, era una cosa spettacolare quella. Mi saziava, forse mi saziava. Poi di Renato mi ricordo solo se ci uscivo cosa, mi chiamavo lo specchio, Capriccio, Lambovo, e mi piacevano pochi. A mio cognato piace molto Lambovo. Vabbè, comunque. Ogni tanto si può fare, lo facciamo anche noi ogni tanto, qualche paninozzo ce lo prendiamo, anche qualche kebab ogni tanto, va per cambiare. Anche kebab prendevamo, ma senza lontano, siccome con mamma usciamo sempre gli stessi posti, no? Assieme, tipo lo Shan, prendevamo anche il kebab, tanto lì da Shan, qua a sinistra, no? Solo entri da Shan, dopo dal partito di sotto. E trovi due bar, una a destra e una a sinistra, con la sinistra si va a e fa tuttora il proietto si abbassa. Quella carne bella rossita che gira, ogni magnaccia, mamma mia, manco i magliacci. Non so se sei andato, quello che c'è, la prima traversa di via Roma, a sinistra, all'angolo con via Umberto, anche lì c'è il kebab sardo. Via Bedieni. Via Bedieni è ancora via del Trento, sì, ho sentito che c'è un kebab, ma non sono mai andato. Si mangia bene? Un po' caruccio, però la roba è buona, le carni sono scelte, selezionate, capito? È roba di qualità. Poi c'è sempre il panino del mese, cambia ogni mese, quindi è sempre un'offerta, oddio. Ce lo paga, anche quello. Eia, ma diciamo che gli ingredienti sono anche in parte ingredienti di... Insomma, sardi, così è. Se qualcuno dice che vuoi mangiare un vero kebab, deve andare dal kebab arabo, ma non lo so se è vera questa cosa. quello che c'è nel garage, ce n'è un altro, poi salendo sulla sinistra, lì dove ci va mio figlio ogni tanto, qualche volta ha convinto anche a noi, e lì scegli quello che vuoi dentro tu, tutte le clienti che vuoi, lui te le mette dentro, cioè la piccola, la media e la grande, tipo una piadina, se te la avvolge, gli mette un rotolone di venta. Anche questi sono buoni, quelle cose sempre ce ne sono le nazionalità, per esempio una specie di piadina con all'interno vari ingredienti, anche messicane le fanno, di solito sono sempre buoni. Io già sono abbastanza bocca buona per quelle cose lì. Per lo street food, anche se poi non è street, ma è un negozio organizzato. Guarda, io solo una volta ho gustato un kebab che non era un kebab, era un'altra cosa. La presenza è il canopone non via come sole. Sì, salendo su, vabbè. E lì quasi di fronte c'è una specie di qualche ponte, no? Non mi ricordo come si chiama. Ah, aspetta, da, ma c'è un nome particolare. Aspetta, se mi viene in mente te lo dico. Insomma, io ho letto kebab, ma kebab era il primo della mia vita. E mi hanno dato questo pane con pollo arrosto bianco bianco, poi due foglie di insalata, per questo sarebbe kebab. Ma una cagata era. Questo è il kebab vero, almeno fatto con le salse, la salsa bianca, lo yogurt, la salsa rossa, le cipolle, i pomodori, quello l'ho preso da Auchan. Però io sono sicuro, cioè vorrei gustare il kebab proprio fatto da un arabo, a vedere che sapore ha, se mette spezie, se mette cose particolari. Mi ha fatto un viaggio in Egitto, quei paesi di Tunisia. Sì, già, però preferisco a volte mangiarlo qua perché l'igiene forse è un tantino superiore, qua là ha troppe mosche. A proposito di piadine, ti volevo chiedere una cosa, tu lo conosci il Surströmming? No, cos'è? Una roba da mangiare? È quasi roba da mangiare. Allora, il Surströmming, no, è un pesce fermentato di scatolette, è svedese mi pare, no? Praticamente loro prendono dei pesci, tolgono la testa e forse anche l'interiore, e li lasciano parzialmente lacide, no? Poi li mettono in questi barattoli con salamoia in modo da bloccare parzialmente la fermentatura o per rallentarla. Però alle volte capita appunto che la fermentatura vada avanti e si gonfi leggermente la lattina, no? Il scatoletto di cotone si gonfia e crea pressione, no? Ti dico solo che se tu apri questa cosa dentro casa, dall'odore di morto, di fogna che hai, di evacuare la fantasia. Una cosa non si apporta. Ma quindi è andato male o si può mangiare ancora? No, lo mangio anche lì. Però se tu vuoi vedere su YouTube ci sono molti video con questo Surströmming, no? Loro cosa fanno? Aprono la scatoletta e mangiano direttamente dalla scatoletta. Non si mangia così perché così è atroce. È un sapore molto forte, no? Una cosa buona. Allora, come lo mangiano i filetti? Loro prendono i filetti di pesce, li levano l'interiore se ci sono, li levano piano piano la pelle, lo smucciano finemente. Poi prendono una specie di pane, una specie di piadina, chiamano loro, e ci mettono questo pesce sminuzzato, non molto, certo. Poi ci mettono cipolle, pomodori, panna acida, e poi per l'altro ci mettono, aspetta, allora, cipolle, patate, pomodori, panna acida, e poi ce lo possono mangiare un piatto arrotolato, tipo piadino. A loro piace, certo un sapore un po' particolare, forte, loro lo mangiano. Allora un consiglio, per non fare troppo odore, consigliamo di aprire la scatoletta all'aperto, e poi immergerla in un secchio d'acqua, in una bacinella d'acqua, in modo che anche lo schizzo, no, quando è sotto pressione, non bagni nessuno, non spruzzi nessuno, capito? questi gusti e colori non si discutono, secondo me. Io un po' mi lascio affidare dalla, cioè mi fido del naso, dell'olfatto. Allora non è per te questo. Almeno quando apri la bocca e vedi che ti è scappato. Mamma mia. Poi esiste anche il Facebook egiziano. Conosci il Facebook? No, neanche. E lì cosa c'è? Allora, lo stesso Facebook è un pesce non ben identificato, non so se lo chiamano l'India o la zona, cioè un pesce che viene lasciato all'aria a mezzo maschile, no? Diciamo che al sole si essicca parzialmente, perde molta quantità di acqua, si essicca parzialmente, però un po' è meglio pratico, ecco. È al mercato lì in Egitto, lo vendono così, no? E si mangia così, semplicemente, poi non so se aggiunga la roba. E praticamente un egiziano l'ha fatto cercare sempre video di YouTube, no? Cerca Facebook con la K. C'è questo egiziano che fa cercare questo Facebook alla gente che passa, non so dove è Londra, no? Ma c'è un po' coincidente che l'ha assaggiato, ha fatto, come dire, buono. Una signora invece l'ha messo sputtando, mezzo vomitato. Diciamo che il Facebook può essere pericoloso, perché sai, lì in Egitto io non lo so in che condizioni lo faccio, magari lo lasciano al sole, ci vanno le macchie sopra, insomma non è proprio una cosa etica. Ma non che non lo facciamo in impianti, diciamo, specializzati, diciamo ostri, cose, capito? Diciamo che il Facebook è la versione asciutta del surstrong. È il nostro baccalà, dai. Molto più mucinoso però, più che il baccalà è fresco, no, quello è meglio pratico, meglio putrefatto. Mamma mia. Però io una volta sono andato in un mercato praticamente locale, perché Sharm el Sheikh, no, c'è la parte nuova, la città vecchia proprio dove abitano i residenti proprio. E lì proprio ti ammazzano la gallina davanti, ti tagliano il collo, oppure la carne che appesa lì con due palmi di mosche appesa ai ganci, mamma mia. Ma è che loro sono abituati, non le fa niente. Con il nostro stomaco guai. Beh, se c'è la cottura almeno ammazzi dove c'è la macciata. Così dai, l'ho visto anche sui video una volta, queste scatolette di surstrong, certo lo faccio un po' per eccetera, se ci siamo tutto, però se c'è un gruppo di persone coraggiose che vogliamo gustare, però non ha mangiato al tipo come fanno molti. Io ho preparato tutti gli ingredienti, come ho detto. Chi è? E cosa? E va? Perdona. Dimmi. C'è mamma che sta indagando, mi senti, mi senti? Ah, sì, Franco sono. Via Sicilia. Mondolava tanti anni fa, anche Mondolava è stata la sorella, così è? No, mia moglie. Ah, siamo lì. Perché mamma, appunto, Mondolava tempo fa, non riconosceva la voce. E vabbè, noi siamo andati all'84 e storia antica. Storia antica proprio, mamma mia. Avevo 13 anni nell'84, non avevo nemmeno l'età per modulare, infatti ero vivo, poi dai 14 anni poi potevo anche modulare, infatti mamma mi ha inserito il mio nome nella concezione, la concezione ovviamente era il nome suo. Nel nome si può dire che nominativo usava tua mamma? Liu, tratto da un'opera lirica, personaggio femminile, che non è la stella di un diceva. Che ti dicevano la c'era più, capito? E dici, mi sai, non conosco altro. La lirica, vabbè, non è da tutti. Più poi ha usato la Maddalena il nome. Aspetta com'era. Vabbè, insomma, più grosso un po' da. E vabbè. Però stavamo parlando di roba da mangiare. E di queste porcherie da mangiare. Ma comunque no, non lo ricordo, questa nominativa non me lo ricordo. Però è strano, no? Te l'ha quindi trasmessa lì la, diciamo, nel sangue la frequenza. Allora, sai cos'è? Io da bambino avevo avuto quei motori giocattolo, no? portati da 110 anni. Quindi ci ho fatto molti tocchi degli anni 70, lavoravano sul canale 14. E quindi anche se gli altri non si sentivano, tu sentivi gli altri. Sei tutto finito là, a voi, 6-7 anni, no, forse a me. Beh, siccome la mamma metteva i walkie talkie senza conoscere la 27, noi da scarpa avevamo comprato due walkie talkie, due, diciamo, portanti, tre basse e tre canali, no, di cui uno solo era quattro, ed era proprio 14. E parlavano tra di dicendo che abbiamo sentito voci, insomma abbiamo provato a entrare. A me mi è capitato Falcone, figura, Falcone, come ho sentito ero ragazzino, ho cominciato a chiedere, quanti anni hai? Ma ti posso fare una domanda? Ma sei peloso nelle gambe? Io ho detto, ma già sono capitato bene. Invece mamma aveva sentito un certo Gabino Dinamite che parlava la Piazza Castello, dai, Portici. Direi che mi ricorda qualcosa. Come? Dinamite mi ricorda qualcosa. Guarda, Gabino Dinamite era, mi pare, il capo cantiere. Morava proprio sopra i Portici. Poi da lì, insomma, la distanza, le antenne, le portanti che erano belle, erano 1,20 m, 1,30 m, erano antennoni, signori antennoni, Poi ci hanno suggerito di prendere l'antenna esterna, allora siamo andati, abbiamo preso una Grand Prix, full size, se potremmo dire, cioè una Grand Prix proprio lunga 4 metri e mezzo, no? 2,75 lo stilo e 2,75 la rilascio. Abbiamo messo sul tetto, abbiamo fatto sul capo, abbiamo collegato lo spinotto e ci si è aperto un mondo, perché prima con l'antennino sentivamo meno, ma poi abbiamo sentito gente lontana e caspita. Allora da lì, diciamo, tramite conoscenze, no? Questa persona ci ha regalato un baracchino, un certo Marco Mandingo, ci ha regalato un baracchino, ha detto che pagate 30 euro di 30.000 lire di riparazione per lo testo di voi, ed erano 23 canali, 5 basse, americano, e da lì è iniziata tutta un'epopea, un bel baracchino comprati, scambiati, venduti, poi mamma ha iniziato a insegnare, cioè è stata mandata nel 90 in Gallura, Palauro, Maddalena, Monti, Amidacè, tutta la Gallura, insegnando, e si è portata il baracchino. Quindi alla Maddalena prima c'era un motore, poi piano piano non hanno sentito voce femminile, hanno cominciato ad entrare persone, insomma è nata la sequenza tra Palauro e la Maddalena. Ma anche lì c'erano i gruppi, le fazioni, capito, gente che si metteva la portante perché era gelosa di separare da quello, oppure non poteva vedere quello, insomma una ciompa. Prima c'era tanta gente, tantissima gente, anch'io. Comunque anch'io ho iniziato così, con quei portatili, con l'antennone grande telescopico in acciaio, però non aveva l'attacco dell'antenna esterna. Infatti avevo tolto le batterie dall'interno, collegato all'alimentatore, fatto un foro col trapano e ci ho messo un PL, come si chiama, da pannello, una presa da pannello, per attaccarci poi l'antenna esterna, e anch'io avevo preso una Grand Plane da 275, quindi più o meno le condizioni erano quelle. E poi dopodiché avevo preso un pace 8030 che usciva veramente bene con un microfono amplificato, il Tamer più 3 da palmo. Noi naturalmente da un canale siamo nati con il canale 14, poi abbiamo aggiunto i quarti ai portanti, abbiamo avuto anche l'innoit dei canali, però il bello di questo primo che abbiamo avuto era che potevi mettere l'alimentazione esterna e antenna esterna, c'era una presa e cose, RCA. Noi per attaccare il PL abbiamo preso l'adattatore da PL a RCA. E ci si è aperto davvero un mondo, c'è più gente lontana, fuori c'è. Sì, io mi sa che avessi forse mezzo watt, non mi ricordo. Comunque poca potenza, o un watt. Anche il mio era con un canale solo, poi avevo acquistato i quarti da, non so se da Fusaro o da GBC, e avevo preso il 23 e mi sembra l'11 forse, sì, e poi come ci tu forse c'era il 14, quello non me lo ricordo. Poi mi ricordo che all'epoca venuto anch'io, quello lì l'ho imbarcato subito perché non si poteva fare, che non sentivi nulla. Grigio e poi è bruciato, però anche il mio ha avuto problemi, l'ho portato a riparare e mi sa me l'hanno rovinato ancora di più. No, no, a me io ho chiesto una modifica per la ricarica delle batterie interne, c'è stata la persona, ha sbagliato una manovra, tutti ha invertito il foglio, quindi si è sfumato, l'ha distrutto. Poi c'è stata l'epoca di Mattoni, tutti eravamo molto squadrati, proprio Mattoni. Ma direi che abbiamo avuto la terza infanzia comunque. Dopo di quello avevo preso anche un omologato per la concessione, avevo preso mi sembra un Irradio MC700S, giusto per avere la concessione. E noi abbiamo preso nell'86 l'Intec SM500S veicolare, che era, ce l'ho ancora, tuttora, 34 cavalli AM6. No, il mio invece non so dove sia andato a finire, perché non usavo mai, usavo sempre roba più potente, dai. Per esempio di mia io non ne ho mai avuto, ma meglio, ne ho avuto uno per un breve periodo, un 131, ma poi non, sai cos'è, non facevo nemmeno gli ex, ma ho domato da più molto, a flaperare, a far rischiare il fatto, poi ho detto no, non ho tutto. Adesso preferisco caricarla, lì che è proprio circondata di tanto, visto per trovo, per farmi sentire meno scelto, pure se riesci a mandare, sai, geniale, intermittente, un riso, sono cattivi, ma in AM no, riuscire quando guardi, quando si trovate, per evitare guai e casini. No, anch'io, vabbè, ormai con questa antenna riesco a farmi sentire un po' di più, prima lo usavo un po' di più, adesso molto meno, dai. Comunque vedi com'è cambiata questa antenna, per dire, l'altra era 2,75, questa è 7 metri quasi, quindi cambia l'altezza, Ma tu, che cambiate lei adesso, lì? Quella che mi ho costruito quella canna da pesca. Ah, ce l'hai attaccata al terrazzino? No, no, sempre, dove era l'altra? Dove era attaccata la boomerang e avevo attaccato questa, sul ferro da attendere. Ehi, certo che sembra un po' sacrificato, il tempo è sempre meno. Tu l'avevi visto il video della... l'avevo fatto là, sì o no? Sì, delle tue antenne. No, quando mi vede il terrazzo, diciamo. Le monte doglie, la ragione perché il pacchiattiero è buono, ottimo, anche il destino è una portata ottica brutta, il destino ancora più libero perché non ha montagne in zona. No, no, quello non l'ho visto. È una bella zona la tua, dai, non è malvagia. Troppo, quanto poteva essere più alta, però devo completare il solo più. Magari abitare a... No, a me fa comodo abitare qua per figlio, 5 minuti di camminata, 5 minuti tranquillo, arrivo in piazza Italia, al centro proprio, se non c'è più di voi, insomma, giù qua, se fossi in periferia sarebbe necessario. Anch'io da qua, in un attimo faccio Ponte Rosello e sono già via Lomberto, e, insomma, al centro della città. Va? Sì, infatti è comodo, perché è molto comodo. Molto comodo stare lì. Se stai qua nelle zone di microfe, mamma mia. Se vuoi andare un po' di Sassari, mamma che uno non te la faccia a piedi, ma si erano anche i pubblici. D'altronde io ho sempre il biglietto del tram, ma non lo voglio guidare perché c'è il traffico, capito? Non sono più passeggiare il del tram. Addirittura il biglietto dura 90 minuti. Una volta riesco ad andare, fare la commissione e spiegare la concilia e tornare a casa. Eh beh, ne fate uno di una volta, a voi che lo fai, secondo che commissione riesce a fare tutto, sì. Aspetta che ho trovato una foto, se riesco a scaricarla te la mando. Eia, eia. Allora, vado a prendere il cellulare che l'hanno portato, ma quindi io ricevo una perché mi dice che il messaggio, come si chiama, che l'annuncio è scaduto, quindi non me la fa aprire. Quindi l'ho trovato, aspetta che te la invio. Più o meno era così il tuo. Lo apro. Guarda, lo vedo già lì. Lo vedo già dalla miniatura, riesci a vedere? Venga, sì, guarda, l'ha portato la Inter, che l'ha portato la Fagliette. O vai no, eccolo qua. Dynacom 40. E questo è il 48, ma è uguale. Vedi, ma non puoi incontrare con una squadra, vanno per canali. Sì, guarda, un giorno ho fatto un poli, poi un selettore e l'altro, che non mi ricordo già io. Ma l'altro spazio c'era un piccolo selettore, non mi ricordo cos'era, c'era la potenza alta bassa. Poi vedi piccoli torini da mettere lì, mini splitter, guarda, era spettacolare questo. Era metallo, capito, non è. Ci sono tutti i plastici, fanno ridere, va bene, erano plastici anche vecchi, ma almeno funzionava. Sì, adesso non mi ricordo se sotto era il PA forse, perché faceva anche da PA, CB, PA, e poi qualche tastino per caricare le batterie forse. È passato un tempo. Era questo, adesso io non mi ricordo una cosa, se avevo il 40 canali normali e 40 sotto, oppure era 40 normali e 40 sotto, non me lo so. Esistava anche il 120 da Iracom, però non aveva 120 canali. L'efficiente aveva 40 canali da MFM. Questa è stata una super... questo avevo tenuto nel tempo funzionante, sarebbe un gioiello. Purtroppo sono paralizzato, non mi fiderei perché bene o male sono messi male, dai. E questo è proprio bello, vedi, la paglietta c'è scritto, bello. No, da me non c'era la paglietta, c'è proprio Excalibur 80, esatto, Excalibur 80. Vabbè sì, è lui, indimenticato. Pensa che mi era rimasta fino a pochissime anni fa, ancora la scatola, ma me l'avevo dato ogni giorno. Ma a me me l'avevano dato in cambio di un altro apparato, forse che io avevo prestato, che mi hanno bruciato. E quindi cosa ha fatto questo tipo? Per debitarsi mi ha dato quel portatile lì, e in più anche un toccai sempre portatile, ma ancora più adattato, con meno canali, mi sembra che fosse un 23 canali, sempre con lo smitterino, però niente a che vedere con la Fagliette, era un altro pianeta, molto bello, massiccio, bello, proprio bello anche da vedere. Portati così non ne fanno più, fanno così se portati di vita, se siete di cose. Guarda, se tu mangi anche una vita dovesse ridere male, progetto di piano di questo Dynacom, poi stati così. Se lo rifacesse, se lo riprendesse in tutti, no, stato migliorato, eccetera, ma lo stesso, tra l'altro io non sapevo anche 200 euro potrebbe. Beh, oggi già con le batterie, con le al litio potresti già alleggerirlo parecchio. E con la nano, come si chiama, elettronica, sicuramente potete farlo più compatto, dai. No, figlio, componenti classici, fidati. Era meglio tenerlo così, componenti classici, magari con signoria. Caspita, sarebbe stato bello. Poi, una volta che c'era una batteria fuori casa, no? Cioè, quelle di intercambio era 500 mAh, non mi durava niente. Però adesso sono batterie dal 2005, anche di più. Siamo una via di mezzo, è il 2004, è il 2003, e quelle che dura. Quindi sì, aveva lo schienale pieno di batterie, giusto? Nel posteriore aveva la fessura con cos'erano? Mini stilo, cos'erano? Ricordo di dietro, mi pare c'erano come delle canocette di plastica trasparente dove inserire le chiuse. serie per le batterie è lunga e bassa. Non mi ricordo, pacco batterie, le serie all'interno non me lo ricordo. Mi ricordo il tappo poi da chiudere con tipo un cacciavite. Sì, esatto, proprio un po' trattato. Purtroppo, storia antica. Allora, se ti ho dovuto fare una modifica. Storia, sì, è vero, non te l'ho mandato il video della... Cosa che la dovuta si rompe al testa occhio, ma la tiene più alto. Cioè, il padre e poi la tenne. Mi sa che te la mando, dai, questo lo vuoi contare, al suo volgere. Di K, quando hai tempo, dai. Comunque la connessione Wind è instabile, appaiono zero stacche, poi quando scava, poi senza muoverlo zero stacche, quando scava, due stacche, una stacche, tre stacche, non è instabile, mentre buono con che ho il telefono per chiamare, con l'altro non quando scava. Però sai, costava poco, 5 euro un giga. Quello ci faccio ci permettere così, poi se ne usiamo di più bastava caricare tutto sotto, ma dico che c'è il mio video. Sì, sì, anch'io sono passato a Wind, guarda, me ne sono un po' pentito perché segnale quello che... Ma anche il 4G è più lento rispetto a prima che avevo la 3, è nettamente più veloce. A volte addirittura se ne va in edici, neanche in H, in edici, proprio lei è lentissimo, non riesce a scaricare nulla. Sono trovato il mio canale, il mio video, io... Mentre il video caricati, eccolo qua, vediamo se ci sono gli strumenti per, dopo che te lo mando. Sì, sì, no, qua c'è, qui ho la fibra, quindi già lo apri subito. Allora, ti dico solo questo, adesso piano piano lo invierà in corso, ti dico solo questo. Ah no, non ha mandato. Ecco, adesso là. Io sono aperto, diciamo, io sono chiuso, da nord a sud-ovest, credo. No, sud-est, da nord a sud-est, dico. Però da nord-est, est, sud-est e sud sono aperto. A me c'è tutta via Savoia, Funicella, Mezzola che mi copre, ricordati, via Gorizia, via Savoia, tutta la zona del Sardegna che mi copre proprio l'Italia. Cioè il continente italiano è un po' più chiuso, però puoi chiedere, vai, guarda se lo con calma. È bello, Sì, sulla destra diciamo sei più impallato dai palazzi, ma davanti e a sinistra sei libero, abbastanza libero. Si vede Monte Doria di Azzero. Sì, insomma, tu sai dov'è, più o meno, ma comunque già si vede che l'altezza c'è, dai. Ecco l'antenna, quell'antenna cos'è? No, quella è l'antenna che ce la danno 92. Il video è stato fatto prima di riempirmi in piazzare le antenne nuove. Ma quell'antenna, lo stilo di che frequenza è? Era una boomerang, grandiata con la cucina. E sembrava un'antenna di macchina, poi se ne sta inquadrando un altro palo, sta inquadrando. Vediamo cosa c'è. L'antenna TV. La griglia, e poi... E poi non è sempre quell'antenna lì, Sempre quell'antenna. Quindi ricordati, nord un po' chiuso, nord-ovest aperto, ovest aperto, sud-ovest aperto e sud anche dovrebbe essere aperto. Però sud-est comincia ad essere chiuso, non so molto. Insomma io sono anche un po' a fare. Sentino, per esempio, è vero, molto lontano, mentre Sentino proprio non ha molto diretto, 88 parecchio, ma non c'è nessuno che muove. L'altro giorno c'ero io in macchina, a Claudio lo sentivo benissimo. Torino. Ehi, anche a me ha picchiato il portamento. Certo, non più basso perché sono più basso. È che con quarantena dietro, insomma, sono un po' penalizzato. Ho fatto, non so se ti ricordi, ho fatto le prove, metto una base magnetica. È nettamente superiore alla base magnetica. Allora, il carrasso, se no, si divide in due. C'è un modellino che divide, per esempio, il carrasso di un proprietario, dove ho la canna io, e la fa parte dell'altro proprietario. Ah, ho capito. Aspetta che ti faccio una foto dall'antenna, un video dall'antenna, poi te lo mando. Guarda che ho fatto io, da. Eia, fai pure. Lo stai inviando, Ok, Joe. Guarda un po', dovrebbe essere arrivato. Ancora no. Questo è un so di e totalmente la connessione. Poi da questa parte prenderò. Vabbè, già, siamo lì. Perché dovrebbe essere minimo in full HD, in alta definizione. Perché non credo che l'abbia fatto in 4K, se no mi viene me lo chiede. Attenzione, 4K non è supportato da tutti gli apparecchi, quindi se vuoi continua avanti, se no cambia formato. Da 4K deve essere uno spettacolo quando non è quasi cose della natura, così. No, io ci ho fatto all'HD Ring, non è nemmeno 1.3, questa è 1.280 per picture. Invece l'altro smartphone ha 4.3, non è arrivato ancora, non si è segnato, no, ma già si è segnato, vai, vabbè, si chiama, allora, non c'è problema. Sì, a me me l'ha già inviato, mi è uscita già la prima spunta, cioè praticamente mi dice solo che non l'hai aperto ancora, però inviato è inviato. Però con la prima spunta è inviato, con la seconda spunta vuol dire arrivato, secondo me è possibile aprire. Vediamo, se va per correzione. Ed è piccolo, amico. Non so, cioè è piccolo di durata, il peso non l'ho guardato come megabyte, e dura 30 secondi. No, questa non è una cosa, invece, adesso, questo è un 2009, no? Ma il 2009 si sembra dalla stretta, dalla fine degli anni 80, ma io dico, come una vita rispetto al 2009, no? Ovviamente è migliorato. Sempre con i componenti classici, no, viene venduto attualmente, perché non li fanno guardare anche il portatile? Guarda, certo è grande, una grande ricchezza. Ormai, cos'è la faglietta americana, cos'è come ditta? No, è stato marcato con la faglietta, però è grande che era un produttore unico, e poi qui fa... Sai come si chiede con gli apparecchi cinesi, no? Con certi baracchini, tipo... adesso non ci so fare un paragone. Ci sono anche molti televisori che chiamano uguali, molte radio per auto, molto simili che cambiano, anche le macchine, molte macchine sono uguali. Ecco, per esempio, l'Antone, AT555, pare che si chiami così, praticamente ha nominato con nome il 12.9, ma per la regione del mondo, tipo Master 5010, Capazzo 5000, Intec HR55, CRP109, Acquario non so cosa, addirittura è mancato Kenwood, quel baracchino, anche una nuova macchina. Hai visto marcare il baracchino Kenwood per la zona della Russia, ho marcato Kenwood. Ma che apparato era? Ti mando la foto. Intec HR55. Guarda, il 26, il 30 MHz, MFM, mando la foto. Ah, non portatile, un baracchino per auto, va. Ecco, eccolato. vogliono cambiare. Si mandano fuoco sia da illuminato e sia da luce spenta, che invece è tutto illuminato. Ancora non hai caricato, mi dice di no. Eccolo qua. Allora, vediamo, ho messo in orizzontale ormai. Diciamo che è un po' così così perché l'ho rinato la flash. Poi l'altra foto invece è notturna, dove si vede tutto il video illuminato. Vedi tutte le scritte, ho trovato. Sì. Riprova, mi dice. Non vedi che non sta tutto bene? Beanca. Pronto. Già, mi avvicino al finestra, tutto lo mando subito. Sai cos'è? Perché ancora sta caricando l'altro, quello che ti ho inviato io, quindi adesso due operazioni insieme lo appesantisce ancora di più. È bello acceso, di notte è bello, molto bello. Vedi, quello che c'è sotto, vedi, si assomiglia molto a quello che ho io, però è senza frequentimetro, quello lì. Non vedo perché. E lui dice, io ho le casse del computer, entrava prima con la boomerang ed entra anche adesso con questa 5 ottave. Vabbè, ma l'audio le casse non cosa fa, perché vedere un po' se riusciamo a limare qualcosa, boh. Non c'è questo scooterino, no? Non si correrò più, vedrà. Pazienza, vuol dire che è vero. Eh no, io la moto l'ho venduta, purtroppo, perché qua non potevo lasciarla, ma avrei potuto lasciarla dai miei o dai miei soldi, però per vedere la ferma ho preferito venderla, però un po' me ne sono pentito, era un bel Vespone 200 destinato per il mercato americano, infatti aveva quanti chilometri in miglia, qualche sbaglio che è stato fatto, l'abbiamo tenuto così. Sì, c'è stato un errore, invece di consegnarlo diciamo al mercato americano è stato consegnato qua in Sardegna, in Italia. Quasi il doppio, 1600, 1700, forse più di Non ripago io per la mia che è un 3200 di cilindrata. strada. Non li pago io, mi sa ma neanche 500 arrivo. Thank you. cosa sono? Passanti o che cosa? I nemici attraversano praticamente giusto tra due lì. Giusto tra due lì. Non passano, non attraversano tutta la stessa. Capito? Ma cosa si chiama? Svizzi e la rifiuta. Proprio se le sconfitta. Sempre che loro si danno, non blocchi la vite, bisogna vulcanizzarla bene. Bene, questo sì, se noi in stazione fissa l'abbiamo bello staccato. No, ma dico, se vai da un amico per prova, giorno, anche una serata, sai. Allora, c'è il mio. Me ne sono occupato di questo. Con l'ascolto scherzante o agglomerato. Bello stretto, per il sol, bello teso, qui ho perso il bianco, però stretto, non da far da dare il tempo di raffreddersi all'agglomerazione. Infatti, abbastanza buono, non mi ha dato problema, non è che anche al vento, vedo, leggera, leggera, questa luce di mezzo, questa idea. Ma io ho una mantova, però no, mi sembra, credo che sia a fascette, anzi deve essere a fascette, quelle fascette normali, da. La mantova pesa 5 kg, più o meno 5 kg. Io non sono per la schiera, perché non sono per la schiera, io ho la schiera, che cambio, no? Cambio per mezzo terrestre. Esattamente mezzo, però mezzo mezzo rimane a fianco da sotto, dalla sopra da fianco mi metto solo due minuti, anche mi sono capito, quindi no, non ho avuto bisogno di lasciarmi, mi ha preso una mano per il piano. Hai messo cravatte murate oppure tassellate? Tassellate, dal 92, con le 360. Ma in plastica o tassello in acciaio? In metallo? Oh, acciaio. Beh sì, anch'io in campagna l'avevo messa così, avevo fatto una staffa tassellata in con tasselli d'acciaio. L'avevo fatto al signore perché era portiamo adesso, la 92 sarà passata, anche lì si va dai. Come cavo c'hai? Quindi è abbastanza isolato, eh? Se sia oltre l'80% di isolamento, diciamo. Cavolo, la GBC, già me l'ha fatto pagare un pacco di soldi. l'ho tagliato per fare le saldature, ma no, praticamente non c'è rame dentro, non c'è nulla, quindi ho preferito utilizzare un cavo vecchio che avevo, che ne c'era nettamente più rame, addirittura quel rame, quello bianco, invece quello della GBC c'è quel rame arancione di scarsa qualità. Il cavo della CTE. Come tantissime cose che sono fatte in Cina, poi ci mettono solo il marchio e basta. È una buona antenna sicuramente, dai. Quanti ne ce l'hai già? Beh, posso paio d'anni. L'abbiamo messa a posto. Prima avevo pagato il suo veramente ricco, però prendo poi bella età, modesta. Cosa subito, lo so portato un anno qui, lo vediamo un po' come alluminio di ricambio. Perché, Mondezza, che problemi aveva? Ricezione, trasmissione, tutto? Il cavo addirittura costava, quello che io ho pagato 1,20 euro, di scarsa fattura. Fusaro c'era 90 centesimi, non ho visto che tipo di cavo, ma sicuramente sarà migliore di quello. È un casino praticamente. Allora, un lineareggio, della CPE, come si chiama? Booster 707, no? Lineareggio è un gigante 707, no? Lo trovavo in 45%. Io ho preso il ZG, il B150, in macchina avevo quello lì, che non era grandissimo, facilmente da camuffare, dai. con i radiali in vetroresina, quattro radiali, dovrebbe essere ancora funzionante, credo, se non si sono bloccati i prigionieri dei radiali, che non mi ricordo se a suo tempo li avessi ingrassati. Dai, comunque è arrivata la signora, ti saluto e vale, ci sentiamo alle prossime, grazie per la chiacchierata, ok? Riprendi. Altrettanto, ciao ciao. Che vuole ritoccato, c'è qualcosa da rivedere con la radio, non è esce bene, esce tutta distorta, tutta non lo so. Mi era venduto un radiomatore di Sorso. Io non so che è il radiomatore di Sorso. A Sorso ce ne sono tante radiomatori. Non so, però una cosa è certa, che qualcosa con la radio è da ritoccare, da rivedere, da riallineare, si è tutto spostato, un'orazione impressionante, c'hai dei USB allucinante. Dopo aver sentito, io qua ti registro così, come vedi anche Marco, ha detto la stessa cosa. Uia, c'ho la gola in fiamme, Marco lì, ma in fiamme, siamo a porta di spray. Stai molto al caldo, metti il riscaldamento, non ti fare fregare, che sennò è brutto e peggiore. Il cane lo puoi portare da qualcun altro, se è possibile. Adesso quando viene mia figlia, vediamo. Ha già mangiato. Mi arriva a Santiago 4 a me, questa tipo da Italia. Santiago 4, anche un po' massimo. E al pomeriggio, o meglio, fino alle 5 eravamo con Franco, andato. Parlando di radio, parlando di cibo, poi ero uscito. Ah, Franco, ho capito. Sì. No, io ero sdraiato, era tutto spento qua, Marco. No, fa male la gola. Un casino. E anche a me mi arriva basso, a me i tri mi arrivano per 10, per 15, per 20. Questo è Santiago 5, no? Anche qua la modulazione è un po' impastata, ma comunque è molto meglio dell'altra, eh? Molto meglio dell'altra, il segnale è stabile a 9,10, vedi? E adesso sembri quasi un umano, prima di un extraterrestre, però ti ripeto, il segnale io lo conosco da Itri, sì, 9,10 abbondante, quasi 9,15, era il segnale di Itri, poco fa mi arrivava in Santiago 5. Adesso come l'hai regolato, Massimo? Che cosa hai messo a mezzogiorno? Il vate o la radio? Il caro a mezzogiorno? Il processore è attaccato, Sant'Antonio mio, abbassa leggermente il Mickey Gain, il pomellino nero che io devo cercare, abbassalo leggermente, aiuto, che è fenomenale. Abbassa il Mickey Gain, ti ho detto, non gridare, io non so se con un baracchino. A uno lo devi mettere il Mickey Gain, a uno, un attacca, mettilo a uno e mezzo, no, non tocchi, lascialo stare così. Non ti sei accorto che lì senza processore, e queste radio senza processore in AM fanno schifo. Ma forse era anche con la potenza a zero, o qua. E sicuramente avevi anche la potenza bassa. Quanto ti arriva a te, Marco, adesso? Guarda, è passato da 4 a 9,5, radio buona, quindi non tocca se nulla. Infatti adesso sei tornato un cristiano, dopo che fai di un extraterrestre. Quelle radio lì non devono andare sotto i 5 watt, devi tenerlo sempre a 20-30 watt almeno, lì di portante bianca, e processore inserito, capito? Mickey Gain a 1, 1,5, va benissimo. L'impedenza del 60 quanto ce l'hai? A 50 o a 500? Ok, è sotto in posizione in, no? Non è out, è posizione in. Mettilo in, posizione in. Adesso Maria Gara. Abbassa appena appena il Mickey Gain di nuovo, appena un pelino, vai. Non può già abbassarlo, rimettilo com'era, no? Marco, cosa dici? Sì, per me va bene. Fai un passaggio alla dico un attimo, che volevo guardare lo speaker. Per me è buono. No, mi sembrava di aver visto leggermente picchi negativi, ma questo è uno speaker di baracchino, quindi non lo so. Claudio, ti risulta una cosa minima? Prova a fischiare, tocca, voglio vedere se i picchi sono positivi o negativi, se no abbassi appena partenza. No, sono positivi, va bene. Quindi ricordati, l'MC60, 50K sotto, posizione in, perché auto è chiuso il circuito, capito? Posizione in, non se sono inserito, mi chiedina 1,5, va benissimo, adesso va bene, ti posso dire che va bene. Così come è regolato adesso stai andando benissimo, il segnale è suo, 9,15 abbondante, la Itri perché ce l'ho di fronte, la radio è perfetta, adesso è regolato bene, ma poco fa sembrava da buttare. E adesso esce bene, la radio è bella, bella proprio. Infatti ricordati le impostazioni. E vabbè, letteratura di queste radio bisogna farle con chi o ce l'ha uguale o chi la conosce, se no ti incasini, capito? Io ho visto subito che avevo un po' di difficoltà nella letteratura, perché non c'era mai il corrispondente errato, però comunque così va bene. 9, quasi 20, 9, 18, radio 5 perfetta. Ti ricordo che io c'ho un po' di raucine, però stai arrivando benissimo, sia che tu sia 18, 20, dai, il picco è quello, ma la radio adesso è perfetta, va benissimo. Non la mettere mai sotto i 10 watt quella radio, quindi era sempre 10, 20 watt, se la vuoi tenere a minimo sempre oltre i 10 watt, 10, 15 watt, a livello di un baracchino, vai, su baracchini che hanno 10 watt. Ma non andare sotto, perché se no non lavora il microprocessore, non spinge, esci tutto distorto, capito? E se tu sei amico di Antonio, io ho i gemellini come Antonio, ho la linea del 440 e la linea del 430, ce l'ho qua a fianco. In assoluto sono i migliori, caro Sant'Antonio, comunque. Se te lo sta dando lui, che l'ha comprato l'ora di mattone, vuol dire, vabbè, inizialmente mi sembrava quello che aveva preso tanti anni fa, che aveva sempre un problema. Questo sembra che vada bene, questo sembra che vada bene. Non ci sono problemi, capito? Sì, io ce li ho tutti e due, attori, sono 430 e 440, avevo anche 70, 140, però li ho fatti tutti fuori, perché non... Sono baracchini a sintonia continua, questi sono morosissimi, mi piacciono. Invece 430 e 440 sono i due top per la 27, dai. Avanti Marco. Sì, sì, così è, riconosco bene. No, prima era proprio alienante la radio, proprio strana. Sì, io mi ricordavo con la 240 mettevo a freddo 10 watt. Almeno 10 watt a freddo, poi scalda ne dare almeno 20, 25, ma non bisogna mai scendere la t-shirt, in effetti perché se non lavora veramente male. Ok. Vediamo se c'è Natalino all'ascolto. Natalino? Ancora non è stato. Attenzione, Tore, come arrivo da te? Guarda, sto usando un baracchino a 4 watt. Ok, dai, buono, buono. Vedo che scende lo speaker qua, vuol dire che c'è l'antenna bagnata, ecco. Comunque Claudio non ha fatto un granché di pioggia oggi, no? Niente di grosso comunque. No, non ho fatto niente. Non ho fatto niente, è registrato bene. Ormai io ho visto stamattina, sono uscito, però non c'era niente di che. Ok, dai. Va bene. Il cambio allora per il break, Tore si lasciano così, che va bene, non c'è problema. E Marco, il 140 è un due conversioni, il 440 è un tre conversioni, quindi è chiaro che quando lo accendi se la potenza è lasciata a 20 watt e la retrovia a 20 watt, non ha bisogno di scaldare come fa il 140 e il 80, non fa del fuoco per la potenza, capito? Sono radio completamente diverse. Ecco perché io le ho fatte fuori, mi sono tenuto il 30 al 40. Gianni, a te il microfono, dai, sono senza voce, riprendi tu, rimango il cuore X e ascolto, se no ci sentiamo dopo. Buonasera a tutti. Meno male, io ci siete, ieri ho acceso 5-6 volte, ho fatto chiamata, non c'era nessuno. Andavè, come mai ieri questo... siamo questi disattati tutti, dai. Io ero schiavizzato. Con la crusta rossa. Sì. Zitto tu cocomane. Ubriaco lefragico. Io ero a letto con la febbre già, quindi non ti potevo rispondere. Aia, e come mai? Non è ubriaco corporale. Sicuramente il capannone è giù da normali, offre da niente a trovetto. Facendo quel lavoro, ma mi ha fottito, capito? E qui c'è un po' della voce rauca, sono forza lì. Tupirino eccetera, già passa, niente di che, ciao Natali, buonasera, c'è anche Tore da Itiri, oh Gianni, riprendi tu e fai girare. Sì, dai, buonasera Tore, buonasera a tutti, dai, riprendi Tore, dai, mi hai sentito, non mi ascolto. Non ti ascolto, Tore, insieme siamo tanto, che stavo provando una radio, dai, ok, ciao Natali, riprendi. Ho ripreso il posto. Ti arriva il chat Gianni doppio lungo, dai, riprendi. Non gridare però, se no strappa, capito? Buonasera a Tore, dai, mi hai sentito, l'ho portato. tanto bussa e qua si rompe. Io andavo a Monterosello, diciamo via Baldetta, dai. E quindi già ti dicevo bene, pensavo un pomeriggio. Andava bene, Marco, ripetito quello da c'è Natalia, ripeti che Marco da Tappignana sarà pranzando. E se un ubriaco è tragico, quello, io l'ho sempre detto. Ah, secondo pomeriggio devo abbassare Natalia, esci su già avanti. Marco lo vedi stupida, perché microfono stai usando? Il suo. Questo è? 45 HP, neanche un altro uguale, catalogo, che facciamo scambio con quello navato che mi serve, con l'altro che c'ho. Ma quale? Quello preciso a questo. Ma è difettoso? Ma vai, cosa difettoso? La via in macchina, la Platamona senza lineare né niente, Santiago 9. E che cosa è? Cos'è questo po' che c'hai? È quasi uguale a questo. Lo già. Aspetta un attimo, dimmi già. Come si chiama? Giampi? No, non mi rammento. Bisogna che sia andata all'armadio, perché ce l'ho sopra l'armadio, capito? Non li sto usando, c'ho il coso, come cavolo si chiama, il President Lincoln, un altro 120 canali della CPE. Ce ne sei dimenticato, ma quello che ci ho omologato ce l'ho in concessione, capito? Ah, e allora no. Io non ho segnato nessuno in concessione. No, e come ha fatto a averlo la concessione? Se chiedevano che marca è, il numero di serie, tutto qua. No, addirittura io ho la concessione anche per il PMR. È tutto giambato. Non ha giubuto nessuna marca né nulla. Ma no, me l'ho chiesto. Allora, le spurie che manava, e c'era scritto nel libretto, noi dovevi mettere quello. Poi il numero di la piccola, che marca era l'apparecchio, che modello, tutte queste cose. A me non mi hanno detto nulla, hai già mandato l'uvoglio, quello che ho scaricato da internet e via, non c'è problema, hai già pagato la data, va a gennaio mi pago l'altra. Si attende sino a dicembre, così. Scusate, cosa è successo della tassa? Nulla. 12 euro sempre. Ah, il vento di variazioni, No, no, non è pervenuto niente, nemmeno il circolo. Ok, dipende se vuoi, dai. Ehi, allora. Ciao, Antonio, ci sentiamo. C'ho anche due bau bau. Ehi, nuovi, sono in scatola, mai usati si può dire, il GT3 me. E questo qua lo stai usando, se la spugna che cavolo usa a fare, ti dà solo problemi. E infatti, questo quando cambio l'antenna non darà più problemi, capito? Perché la metto più in alto e metto un'antenna senza radiali, quella che mi sto costruendo. No, prima mi ricordavo che l'altro che avevi c'aveva un problema, non mi ricordo se era del frequentimetro o che cosa. Quello che ti ha dato Marco. Non ne ha problemi, che ha problemi. Se l'ho usato io in macchina. Non ha nessun problema, sta l'eco, c'è tutto come questo, solo che a me non va, ecco cos'è, e gira io a me pare ne uguale a vedete, perché questo c'ha troppi picchi di modulazione, io sto usando un vattimo, il mattino addirittura è a metà, no, non lo alzo, se no la radio è troppo forte. Tubo la metto perché no, è meglio non punire il lo sto usando normale con un watt, perché se lo metto più di 5 watt è stata disturbo già. È una bomba con l'apparecchio, mi sa che ce l'aveva anche quello di Porto Torres, il San Gottire, ce Mi devo fatto vedere, lo aspetto, ma perché scalda 4. Oh, questo non scalda nulla. Che di avanti. È stranissimo questo. O forse scaldate o altro di là. Devo fare usare quanto altro magari per posto scaldo. Sì, io solo devo fatto mettere una ventola perché mi scaldava troppo. Infatti c'era il pericolo che potesse bruciare il finale, devo mettere questa ventola e così avrà risolto il problema. E io, ma a te. Eccomi già, eccomi già. Non sto facendo una foto. Aspetta che c'è il tuo rumore di dosi, il gatto sta facendo danno, aspetta. Ah, non ha fatto da che cosa è vero. Eppure il mio, quello che c'è lui in realtà lì, quello che mi ha morto un po' di vecchiaia. Quello lì camminava in mezzo agli ugiti e stava, io pensavo che mi sta sentito una cera, stava un bel attento, non stava nemmeno un oggetto. Passava in mezzo, poi quindi saliva sulle mensole dove c'erano ugiti. Anche la mia non butta niente, non fa danno. Scatta, c'ha il vizio però di salire sopra il modem. Siccome butta l'aria fuori da sopra, io non voglio che salga sul modem. E allora già ci penso a curva a mandarla via. Ma loro devono vedere sempre le cose dall'alto, capito? Anche mia andava su il bulifero per me. Saliva su e guardava la situazione dall'alto. Ehi, vabbè, questa non si sale neanche. Ah, va, Emily, la Gadria, bravissima, no, non ha fatto mai nessun danno. A buttare la roba in terra, no, non è brutta. Ma con Curcio non bisticciano? No, giocano, se li vedi, giocano. Lì gli tira le zampate, però senza le unghie e fiori, sennò roba di chi vi ruga. Forse perché lo conosce da piccolino, no? E c'aveva 2 mesi quando è venuto qua, Kurt, giocano, capito? Però lui intanto se la vuole salendo sul modo, la manda via. La bella è tanto intelligente, perché sa che io non voglio. Beh, già ripreso il lavoro. Sì, sì, ho ripreso. No, non è mollato, è sempre andato. Sì, sì, sì, tutto a posto. No, hai detto che eri malattia così, non stavi bene. No, non ci sono andate malattie. C'avevo un mal di gola, siamo andati domenica, io, Natalino, un altro amico, siamo andati a Balai a fare le fotografie al mare in tempesta. Ma c'era un vento, cazzo, tutto da casa, c'avevo questo mal di gola forte. Sai cosa ho fatto? La sera mi sono fatto un tè doppio col pone. Me lo bevuto caldo e mi ha fatto bene, lo sai? Lo so, però non l'ho fatto tutto, non mi ha fatto niente, anzi adesso mi sta passando. Ieri non mi sono male, ieri avanti io non mi sono male, perché a me mi ha fregato sabato, sono così capannone da Mario e c'è una corrente allucinante, deve essere che mi ha pizzicato lì. E beh, poi lavorando, stai fermo lì lavorando e ti piglia sempre il solito punto, immagino. E vabbè, sembriamo fatti di ferro, invece noi ogni tanto ci ammaliamo e vabbè. Comunque l'influenza già in giro, a me in verità non mi dischegge mai, mal di gola, raffreddore sì, ma appunto febbre difficile che mi prende. Io mi ricordo che ero bambino quando ho preso le ultime febbre tutto con la temperatura, se no mi sento male, mi sento le gambe morbide, tutte queste cose qua, i sintomi ci sono, no, proprio febbre non me ne dà. Comunque ci sono quelle supposte di cose di tachipirina, tachipirina, quelle tachipirina mille. Altro di tachipirina, una tachipirina da forse tropicale, fa passare tutto. Ho già la tua supposta, già ti va di me. No, non mi blocca nessuno a me lo guru. Una supposta di mio duro, cosa vuoi che sia? Porto da quell'asino lì che conosco io, mi regalo ti passa tutto qua. L'asino della crucca. Esce dove il volaggio? Dove? mi piacerebbe. Subito chiamando mia figlia, invece si è persa, che vai per farmacia a prendermi delle pastiglie, non si la si è persa. E prendi Marco lì. Eia, già mi stavi chiedendo qualcosa prima. Eia. Oh no, di quell'apparecchio che mi stava dicendo un attimo. Certo, mi è sembrato che ci aveva qualche cosa, vero? Sì, e ti chiedo di cosa più, già. Cosavo poco, no? Non me l'hai trovato. C'è qualcosa o no? C'è un freddo qua, ho capito, o si sta abbassando la temperatura, dopo guardo il termometro esterno, lo sai, sono con la giacca, con le mani in tasca, e col sottopantalone, io freddo, c'è freddo, c'è freddo, c'è freddo, c'è freddo, c'è freddo, c'è freddo, vabbè, no, non voglio ammalarmi assolutamente. Vabbè, a Natalino gliel'ho già detto, no? Con l'Atenino so che se ti vendi più importanti gli arancioni, cosa veniva dell'Atenino? Vabbè, c'hai l'altro. Insomma, con l'Atenino c'ha due stagionali in PML. Tu dici, sembra molto, no? Conta che le antenne originali, sempre di apparatità, lavorano con tre stazionari, 3, 4, anche 5 stazionari, i finali non si rovinano, quindi quella lo giantaglio quasi già bene, non ce n'è problema, a meno che tu non faccia passare il falconiano proprio, ma per il resto è ottimo. Quella con l'attacco per te ce l'ho, e la ultima uguale, per me. Quella la do a te, sempre che la voglio ancora. Una sola ne vendo di quelli. Capito? Al limite se lo vuole Gianni, perché l'altro no, se no io come faccio che non ne ho? Lui. Uno solo, ne ho due di quelli e ne vendo uno. Ah no, credevo tutti e due. No, se no poi io rimango senza. Oh Marco, uno solo, sono tutti e due in scatola, già lo sai che non li ho usati per niente, poi quelli ci hanno approvati, quelli ci hanno tre potenze, sono belli. Sì, che dovrebbe essere approvati in WhatsApp e 7 watt in WhatsApp. Però una cosa devo capire, io vorrei fare una prova con te, ce l'andiamo nella giornata, mettiamo la a veicolare e voglio vedere se davvero ricevitore della tua piace o tanto oppure no rispetto al 5R Plus, perché mi stavo piacendo mi dono la ma non stavo guardando, c'avevo la baba la bocca, non lo assorda, l'ho già provato in macchina e non lo assorda. E come mai nel forum hanno detto passamente l'antenna esterna e diventa molto addirittura, ma io non credo proprio, ti dico anche perché. Perché quello che tu detto uguale a un 5R ha lo stesso circuito, però gli hanno aggiornato il circuito di bassa frequenza, gli hanno aggiornato il circuito microchip, no, ci sono le versioni aggiornate dei microchip, però per il resto è lo stesso apparato, quindi se un 5R non lo fa sordo, non fa sordo nemmeno quello. Non lo fa sordo, allora adesso mi salgo sull'armadio e non lo scendo, l'attacca l'antenna esterna e ti faccio vedere che non lo assorba. Sì, però Natalia, se proprio si fa zona aperte, a questo proposito, Gianni, ti ricordi quel fatto portante? Mettevo lo scanner, noi si attivano bene la divanzoni. Mettiamo quel portante di banda, boom, battimento zero, te lo ricordi che ho fatto? A San Francesco abbiamo fatto la prova. Quello era cucinante, era un DYC di H2F9, che con l'antennino funziona, ma poi a mettere a zero zero, proprio battimento zero sta facendo. Ma una volta era fredda niente, no? Stavo ascoltando un frate che durava come era di una cosa, ma no. Con lo scanner lo riceveva, attacco questo, boom, radio sparito. Non è possibile, il radio arriva forte nella preda niente, cioè in piena città, beh, mi spariva con quello lì. E purtroppo, meno male che i Bao sono migliori comunque. Ehi, basta andare a San Francesco e facciamo la prova, gli mettiamo l'antennino, quello lì che stai dicendo tu alla macchina mia, saliamo con la macchina tua, è uguale, e lo proviamo. Ne ho due di quelli, li ho già provati, quindi lo so, perché l'ho già provato in macchina. Tu se vuoi salire in zona alta, saliamo in zona alta e facciamo parlare a Pomponio o a Claudio e vediamo se va sorda, come stai dicendo tu. Io dico di no. No, ma anch'io dico di no, perché ripeto, uguale a V5R, plus raggiunta. Ok. Ah no, qualcuno lo sa quando lo so. Ed è chiaro, se tu vuoi sotto il venditore di Monte Oro, proprio attaccato al venditore di Monte Oro, è chiaro che lo sonda, no? Che prova del cambio che fa. Lì, se vai ai ripetitori, anche con un Kenwood, anche con un Motorola te lo fa sotto, altro che. C'ho prove che hanno fatto un radiatore, proprio roba di Aegio, Kenwood, Incom, sonda, sonda. E quindi non è solo quello, lo fa tutto. Invece se sei in zone normali, no, non lo so, non lo so. Sì, mi sta piacendo, solo che alla fine già c'è una condizione di merda, più quelli alla fine c'è più apparati di capelli. Ma cosa vuoi che ti dica? Addirittura io sono salito sul monte Limbara dove ci sono i ripetitori del povero Mario Planeta, dovevamo piazzare su un ponte ripetitore un affare per sei, un timer per sei, allora no? Oh. Beh, abbiamo parato con Roma da lì, altro che assordatola, col portatile. Caspita, beh, sicuramente con un ripetitore, quello minimo, se no in diretta no, a meno che non ci sia una propagazione troppo spenta eccezionale, anche subnorme, abnorme, voglio dire. Sto parlando anch'io. Facciamo girare per Claudio, te la senti parlare? No, dai, parlate pure, io vi ascolto. Sono messo un bel male, dai, ma sono qua comunque. No, senza ponte ripetitore, in diretta era. Arrivava lì, cazzo. Ti sto dicendo a quell'altezza dove se ci arrivi. Ah beh, c'era parte. Se insieme a morte, cos'era di fatto? Allora è possibile anche sì. Anche possibile. Pensa che io sono così imbecille. Cioè quella volta che avevamo fatto la gita a varie persone, siamo saliti in punta di mano, io non mi sono portato nemmeno il PMR a fare le prove. Guarda che imbecille. Sì, sono dimenticato, è stato che fate andare lì, potevi provare da lì. Poi ti ricordi in diretta parlavano con la Liguria, capito, col portatile. Non ti ricordi Marco? Ci ho parlato io con quello che ci abbiamo preso insieme, che nella Intec, con quello della Liguria, quello che ci parlava a Vittorio, eccetera. Però ci deve essere anche propagazione troppo spenta, quest'anno. Più caldo c'è, più la propagazione troposferica è buona, perché in HF si va tramite ionosfera, se non ricordo male, in HF quindi anche 27 via ionosfera, invece in UHF via troposfera. Eppure avvisavami, l'intendivo sempre io. E poi dal Monte di Mara c'ero io lì e l'ho sentito che arrivava il Lazio da lì. Eravamo in punta al Monte di Mara dove ci sono le postazioni in atto, i punti ripetitori. Per il fatto che tu stai dicendo che lo assorda, non lo assorda, perché se l'avesse assordato il Lazio non arrivava. Natali, se lo ricordi lui, PMR e l'FPT che avevamo comprato insieme nella Intec da Grassi? Ehi, addirittura all'epoca erano in te. Quelli lì omologati, io ho parlato con la Liguria, quello che parlava praticamente con Vittorio Giove, eccetera, eccetera, dalla camera da letto mi sentiva, però era in direttiva. Era nei minelli PD, non era PMR. E tu ti ricordo che quella persona lì, da lì, che aveva la direttiva tra le 20, mi scusi, la direttiva in HF, 24 elementi puntati alla Sardegna ci avevano anche 500 watt all'ora. E a noi ci avevano omologato qui, Claudio, non ci avevano nessun apparato potente, con l'antennino mi sentiva, mi ha detto che non mi sentiva fortissimo, ma mi sentiva. C'era una soddisfazione grossa, vabbè, lo puntava l'antenna su di noi, normale, magari parlando con Vittorio e io risulto nella stessa zona, quindi magari era anche quello, però cioè, non ci credevo, Vittorio, ma stavo ancora con un amico veramente, dopo un progresso, io ci avevo ancora minacciato. Sì, vabbè, noi eravamo con l'antenna esterna, no? E che eravamo, anche perché quella frequenza è secondaria, quindi si poteva parlare lì, capito? Però c'eravamo le antenne esterne. Va bene, dai, ci sentiamo dopo se ci siete. A Kappagava. E vabbè, io non ce l'ho più, però già c'ho qui due babau. Ne ho altri due di quelli ammolavati, ma quelli no, ma sono cattivi, no. Sì, ma un po' sono bravo. Ma io ho una zona che no, per le figlie e PMR no, non va bene, la zona di là. Ho provato anche un'antenna che mi hanno prestato, per provare invece non ho niente. E tu accendi lo carico, quello che hai. Devo andare a vedere. Non riesce a parlare con nessuno, non mi sente nessuno, ma sono Gio Maria e cosa è Luca che è appena con vicino, e cosa è Luca, nessun altro. E già te lo dico io. Mi sembrava anche anomala già. Anomalo che arriva anche davvero così basso già, non si capisce perché. È circondato dai palazzi, lo sai, cazzo, quelle frequenze si bloccano subito, se no hai antenna esterna, non fai nulla. Lo so, se sei circondato dai palazzi sì. Eppure, vabbè, lì, ci vuole l'antenna sul tetto, ci vuole l'antenna sul tetto, ci vuole l'antenna sul tetto, lo ripeterò mille volte. E io anche se non sono sul tetto l'ho messo a terra, sono al terzo piano e abbastanza in alto, non è che sia basso. Ma sei circondato da ribarazzi, il minimo ostacolo che trovano quelle frequenze lì, si bloccano e non c'è nulla da fare. Se tu lo metti ai piedi dell'antenna che stai usando adesso, una bella X30, basta una piccolina piccolina, ti posso vedere che ti intendini tutti. Per esempio l'X30 lì potrebbe, ma che sai, quella è sempre a rama attoriale, potrebbe non essere proprio perfetta per il PMR perché è più in alto. Ma la nostra monitor non è in PMR, hai capito? E quindi quella va benissimo, ecco perché gli ho detto la X30. Ah, e lì è perfetto, lì è perfetto. Per esempio X30, X50, cercando di troppo lontano, ma già la X30 va bene, è su 2x5 ottavi, 2x5 ottavi, figurati. E come dici tu, 27 avessi due antenne a 5 ottavi. Ma non è più nessuno, chi è? Di persona ne parliamo di queste cose. Non parlate di queste cose qua, va? Ia. Ma nota lì, guarda la differenza di grandezza e di forma tra l'MT5050 e G-Midland G9. La vedi la foto? E aspetta che mi interessa, se non mi dici niente. Ma no, comunque il 5050 è buono. Ehi. E tu Gianni? WhatsApp non lo stai più usando? Che sai, spesso non sei disponibile, vedo che magari ti mando un messaggio, lo dici dopo 2 o 3 giorni. Vabbè, no, non mi risulta, ma io lo uso sempre. Te la posso mandare una foto con l'ultimo arrivato? Sì, mandalo, non c'è problema, io lo uso sempre, ma io giornalmente WhatsApp lo apro quando vedo che ci sono messaggi. Ehi, ci vorrà un po' per mandarlo. Qua la connessione è lenta. quel piede che avevi spazzato poi non c'era niente di grave, no? No, grazie a Dio sono riuscito, è rimasto ma a farla assorbire, però è rimasto sempre la parte dove ho sbattuto rossa, non c'è mai, cioè abbassata sì come con fiore, come tutto, però è rimasta la rossa, dopo tutto, tutto dove ho sbattuto. Allora, c'è qua si pianta però ancora non l'hai ricevuta. Allora dico, quello a destra è l'ultimo arrivo, via Mera dei PD, quello a sinistra ce la vogliamo, che è l'MT50-50, vedi la differenza di forma e dimensione. Marco, amico mio, già l'ho trovato, se non ti sto dicendo che fa uno squillo, aspetta, già l'ho trovato. Ehi, te, ti telefono, questi sono dei via Mera. Questi sono dei veri autentici via Mera dei PD. Quello a destra è l'ultimo arrivato, c'è un'antenna bella lunga, ed è un Midland G9 Plus, perché sai, se ti porti fuori un Baobao, anche se lo vedono, guai, è la fine, ti ha portato i veri via Mera fuori, e ci mancherebbe. Visto, bello, bello. Beh, certo, e sarà come il solito ci prendiamo. Eia, sì, inutile, io sono malato, quando mi piace una cosa l'avevo comprata. Anche a possederlo, anche è giusto possederlo, piace possedere, poi magari lo uso poco. Ho messo tutte le batterie nuove, il palco batterie nuove e il PMR. Le batterie stilo da 2004. Anche quello nuovo arrivato, che di 16 ce l'ha da 1008, ho messo quella da 2004. E durano in più. Ehi, vedo la G9, ma l'ho preso piatto per l'antenna lunga, è una bella ricezione, la modulazione è migliore dell'Intec, perché l'Intec c'ha una modulazione un po' così, proprio una modulazione più limpida di trasmissione, e ricezione c'è un'ottima ricezione, proprio una timbrica bella. Io c'ho ancora ciò che avevamo comprato con la tariffa, diamola lì. Siccome costavano uno, prenderne uno solo costava di più che prenderne due. Te lo ricordi Natale? Allora, siccome avevano due caricaturi, due portati, allora io ce li dividiamo in pari, se poi ce li dividiamo. Già, guarda. Quello io. Quello lì c'ho anche. Pirata. Mamma mia. Avete parlato in due, dimmi Natalia. Se non è pirata non ci pita. La pirateria proprio, tutti i casi. E c'è a vedere qua, tre posto, vabbè. Digitale non lo può vedere nessuno, cioè quello è il segreto di tanto. Che poi digitale è analogico anche. Adesso a Natale me lo compro. Ma se è pomodoro l'abbiamo già sbagliato il tuo. Manco tanto già sbagliato. Non sono nelle chiepiccioni. Non ho capito bene la spiegazione che mi ha detto. Se lui è pirla non è detto che lo sia anch'io. Ci ha bastato. Stava la voce umana. La stava potenziando. Sono contento, poi ho trovato gli effetti dinamici, però quelli sono proprio 500 mila, anzi vi dirò di più, che la Bronti, che ogni tanto fa queste cose lompie, ha venduto i droni gli effetti dinamici già con la potenza alta, c'ha le ventina sotto le cosa batterie, no? E la Bronti l'ha venduta già con la potenza alta, già con due batte, capito? E uno poteva rischiare casini per la Bronti, allora io le ho aperte e le ho messe di nuovo basta. I Bronti li voglio proprio vergini. La levettina il mio non ce l'ha, ne ho due di quelli e non ce l'hanno la levettina, maledetti. Ma tu quali hai? Gli FX dinamiche? Gli FX la vanno veramente, sono lì sopra, boh. Saranno i praticanti, sì. Matteo. Guarda, le fix dinamiche sotto zano batterie ha un piccolo sportellino, piccolissimo. Togliendolo, ma ci vuole la lente ingrandimento, si vede una piccola vetrina che con un ago può spostarla su e giù. Se la levettina è giù è bassa potenza, se la levettina è giù è alta potenza, o viceversa. E quindi la pronti, ecco perché diceva, portata a 12 km, capito la furbata che hanno fatto? Li hanno fatti fuori legge, li hanno venduti già fuori legge. E la pronti già aveva fatto altri installati, aveva venduto un PMR, a forma di orologio, era un orologio PMR, no? Che aveva anche lo scrambler a inversione di pasta per truccare la voce, che è molto vietato. Per capire, già ne conosci un pochino i modelli. Antonello, sei tu? Motopompa? Visto? Motopompa, sei tu? Niente, non è entrato molto, a meno che non sia il 23 o il PMR. Eia. Kappa. Comunque Gianni, tu non hai più sentito nulla da una parte, no? Ma sto uscendo, Gianni. Eia. Ti mando un messaggio WhatsApp. Kappa. Stavo controllando se c'era qualche un altro frequenza, ma non c'è nessuno. Non ho spartolata veloce. È un breve messaggio vocale di 8 secondi. Purtroppo la fine di un'epoca, è stata la fine di un'epoca. Che mondo? No, no. Vabbè, l'avevo detto anche l'altro giorno. Qualcuno è passato a Petra. Gli ultimi udibili, addio per questi, fine di un'epoca. Purtroppo si va avanti, come può rimanere sempre indietro. Sentito Gianni? Ehi, a far quello che ce la si dica subito. Ecco, e con quelli abbiamo finito di ascoltare tutto, ci sono soldi e abbiamo soldi da ascoltare. Meglio buttarci, pigliare lo scanner e schiacciarlo sotto i piedi, Gianni. Infatti. No, vabbè, a parte scherzi, a me piace ascoltare gli amatori quando ci sono. Le poche volte ci sono, perché ormai c'è la digitale, DMR, D-Star, Fusion, Assi e Massi. Vabbè, pazienza. Oh signor, è venuta mia moglie, gli ha dato il cane per portarlo in giro. Vabbè, comunque ho notato che vendono dal solito negozio, esiste ancora l'UV3R Mark II, quello che c'ha un audio di eccezione favoloso, quello piccolo, UV3R Mark II, quello veramente da non perdere, è talmente piccolo, bello, una ricezione straordinaria, non a tastiera, ma pazienza. E cosa? Cosa è? VU, UV3R Mark II, UV3R è quello piccolino, senza tastiera, c'è solo due o tre tasti frontali, anzi quattro. Non lo conosco. Ah, lo sai chi fa quel difetto di assordarlo? Lo azzera proprio se gli metti un'antenna esterna. Quello 888, perché me l'aveva detto Luca, se gli metti l'antenna esterna gli fa abbattimento. Oh, l'888, ho fatto bene a vendermelo io. Se quello gli metti l'antenna esterna lo assorda. Che strano. Allora Gianni, Tetra è un sistema interforze, con questi apparati che sono più cellulari, che apparati, cioè possono comunicare tutte le forze, polizia o carabinieri, con i vigili urbani, forse anche i vigili del fuoco, capito? È un sistema interforze, se no sai ci dovranno telefonare, bene. Tipo come il 911, dai, il tempo. Sì, comunque confermo anche il vigile urbano. Credo fosse un altro digitale, però pare sia questo. Comunque, come ha detto tutti, il sistema molto complesso, molto costoso da mantenere. Deve essere un nome dei ripetitori perché siamo a fare il segnale, mentre col DMR, poca spesa, pochi ripetitori avrebbero avuto un risultato eccellente, cioè abbastanza eccellente, forse superiore anche a questo, vabbè, o meglio pari, però con costi meno esosi. Sì, ma ci ripoco bisogna di più. Ricordati, quando lo Stato sceglie un sistema digitale, no, per i suoi conti, sceglie il sistema peggiore, cioè non peggiore, quello è il conto di... Capito? Un sistema complesso, costoso da mantenere, un bene ripetitori, almeno così mi avevo detto, Invece il DMR bastavano pochi ripetitori nei punti chiave, di lusso sarebbe stato. Vabbè, peggio per loro. Vabbè, è per non interferire altra gente, mi capisco, vogliono essere sicuri di non essere ascoltati e di poter riunire tutte le forze dell'ordine, perché interforze, eccetera. Ma anche DMR, prima di tutto è digitale, poi metti una codifica a alto livello e non li sentirei mai, capito? Va bene, buon viaggio. Ah, Claudio, altro che i tempi di Black Jaguar, qual era? L'età dell'oro? Sì, quando c'era con l'RZ1, della che, oddio? E io lo iubitivo. io ero già più in alto di voi. C'avevo le CR7000, però almeno qualcosa si riceveva, adesso non si riceve più niente. Non te l'ho dato io il CR7000. Marco, il CR7000 no. Oh, e non te l'ho dato io il CR7000, te lo ricordi qua? Sì, l'ho preso da te. L'avevo venduto la banana del Carotitano, io non avevo preso quello più grande. Non il 9000 Marco, però. L'altro si vede all'8000, non se lo ricordo. Comunque l'ho preso sempre da Mario, Sì, ero già da rematore, però ero proprio più a zero, non ero di essere zero. E quindi c'avevo anche il ricevitore, visto che io che non potevo parlare, almeno non potevo ricevere, capito? Avevo preso di essere zero, dal giampato tutto, solo ricetrasmettitori. Anche lo Jupitero me l'ha donato Natalino. Il Natalino mi ha informato di quella radio, non gli ho la verità. Natalino è stato sempre molto attrezzato anche da CB, come ha seguito più il mio ricevitore, della radio. Vabbè, e che ci vuoi fare? Purtroppo sono caduto in disgrazia. La salute non mi aiuta, lo stesso. E anche la pecunia, maledetto il mondo che gira intorno al denaro. Non mi addosso, è andata una scrollata. Marco, lì quanto ti serve? Però mi devi tornare, dimmi quanto ti serve. Ti do tempo un anno, vabbè, non ti metto niente di essere niente. Quanto ti serve? No. O si nasce ricco come Berlusconi o niente. Aspetta, ti mando un messaggio veloce. Mi sono ricordato una cosa. Ricordati che ricchi si diventa con l'onestà e con la serietà del lavoro, così si diventa ricchi, perché nascere ricchi non serve proprio a niente, capito? Non hai sudato, non hai fatto niente, sei nato ricco e basta. Invece ricchi si diventa col sudore della fronte. E con le rapine si diventa ricchi, se non nasci ricco devi fare robe illecite per diventare ricco, altrimenti non ci diventi con l'onesto lavoro. Esatto, fare la lotto, pensa a quello che ha vinto 70 milioni di euro, quant'è? 140 miliardi di lire, mamma mia, la faccio in bagno, faccio la piscina con le monete d'oro. Ma ancora con le sassi? No, il continente, la persona ha vinto da una proprietà, cosa. Diventi matto, diventi matto. Da chi non è abituato a avere soldi a... Proprio mi faccio la piscina, mi ha dato tutto le monete d'oro, come ti ho fatto però, mi faccio il bagno nelle monete d'oro. Sì, Sonia, Sonia. Sonia, ci lo si risappi. Adesso mi prendo il calibro 12, così almeno mi faccio il computer nuovo, che questo qui mi sta abbandonando. Io Marco, devo dirti una cosa, ho avuto un po' di sfortuna perché la mia famiglia i soldi ce li aveva e ce li ha ancora, la mia famiglia. Il padre del 1960 aveva due officine, due negozi di autoricambio, di cui Bugia e Mamini erano dipendenti, ci avevo tutto, nel 1960. Mia madre aveva la bianchina, scappottabile, e mio padre c'era la Giulietta. Allora, quindi, ho avuto un po' di sfortuna, però non mi posso lamentare, perché ci abbiamo rimboccato tutti i domani, che grazie a Dio non ci è mai mancato niente. Dimostra il fatto che non ho neanche 60 anni e sono già in pensione, Marco, quindi il nesso del discorso qual era? Che uno, se ci mette la buona volontà e la voglia di lavorare, certo non diventa ricco, ma non le manca niente. Appunto, quello è il rispetto, la voglia di lavorare. E allora della biglia in culo. Infatti c'è un povero, è stentato. Non è il barimandrone, travagliare. No, capisci, italiano, italiano. No, ho detto che non è per le persone che non ne hanno voglia da lavorare. Mi hai detto bene, Gianni. Se hai voglia di lavorare, ti ripeto, vai avanti, se no... Ormai stare alle spalle di mia madre non mi è piaciuto, nonostante, ti ripeto, ribadisco, non ci è mai mancato niente, perché grazie a Dio mamma Portolese già mi ha a casa, già ne sono rimaste, Alghero e Giannabina, però io ho sempre viaggiato per la mia strada, una cosa è certa, che se sei in difficoltà chiaramente sai dove andare a poter bussare la porta, capito? Però ti ripeto, tu non hai mai fatto nulla, ecco perché sei così, forse non ti piace, forse per carità non ne hai bisogno di lavorare, questo non lo so, io non faccio i conti in tasca a nessuno, però al discorso che avevamo, se uno lavora si realizza, se uno non lavora come fai a realizzarti? E poi ormai è tardi, ma sai cos'è, io non sognavo un lavoro manuale perché fisicamente sono un po' così così, sogniamo un lavoro da ufficio, un lavoro da ufficio, mamma mia, però sarebbe stato già una cosa bella. Una bella scrivania, un lavoro di un impiegato alle poste, roba del genere. Non roba pesante tipo un oratore, non ce la faccio. Non ce la facevo prima, tanto me la vedi. Non ti rendi conto quanto è monotono quel lavoro? Ma monotono l'ho fatto per anni, ho capito. Noi abbiamo chiuso lì all'impianto di Castelsardo dalle 8 del mattino fino alle 2. Io in mano, computer acceso, relazionando, sempre scrivendo, sempre vedendo, una cosa bruttissima. Come ho trovato l'occasione, sono uscito immediatamente, non me ne sono pentito, perché stare in giro è un'altra cosa, vedi gente, ti puoi fermare a prendere un caffè, saluti, non vedi nessuno, qui quattro mura, il telefono che squilla, che fa, devi rispondere, e mi mandi questo, mi mandi quell'altro. Io sai quella gente come la chiamo, scribacchini sono, perché non sanno fare altro, capito? Sono scribacchini. E si stanca molto mentalmente quel lavoro lì di ufficio, si crede lui che sia un gioco, ma sa bruallo e usagliela, si crede che, guarda che non fa niente il piccio, non vedi l'ora di scappare. Perché io, cazzo, quando mi hanno messo all'autoparco che avevamo il rientro, queste cose, e non facevo un cazzo, non mi bastava mai l'orario. Sì, vabbè, ma... Io, d'altronde, cose fisiche non ne posso fare, dai. Ve l'ho già spiegato, la mia schiena è molto compromessa. Comunque mi sono accusato proprio qua, e sento spipperi, ma non ho capito la presenza di no. Meno male che avevo la giacca, dai, tu non ne ho messo ancora. Beh, me devo pensarci, dai, già, vai giù. Marco, comprati la stufa al libro, che è un bel bella. Io l'ho vista da un amico e la si scalda bene. Ma io ce l'ho però non, diciamo, a fiamma libani, non a... Ciao, va. Sì, quelle piggiolette che le chiamano anche le fibro elettroniche, mister. Io ho quella con la, lo stoppino, la fiamma a pista e riflettente dietro già. Ecco, adesso la ricambia elettrica e... però non è come la fiamma viva che abbiamo nelle nostre, manda aria calda quella della tua amica. Ma si mette sempre il liquido libero, Eh, già lo so. E cosa non sulle 100 euro, cosa la vuoi? Sì, a questo proposito, va, pronto ma, a questo proposito, visto che ho la libro elettrica, elettronica, come sto parlando l'altro giorno era in frequenza autoproblemi, mi devo segnale di errore, non so le cose, si spegneva, un casino, mi sa che è meglio quella stupina, no? Come quella in Natalino e quella mia. E mi pare a me, è accesa dall'ora di pranzo, perché c'era un freddo qua che c'erano 17 gradi mi sembra, dove siete? Sì. Sì, a Babine 22. Ma togli quella lì non è elettrica, quindi no, non fa elettrico. No, solo l'accensione c'ha elettrica, ma è sballata da quando l'ho comprata. Io ci metto l'accendino, tum, e accendi. Non ha, ci manca il conto, fatti un conto. Sì, vabbè, interessate gli altri. È tipo quelle a gas che c'erano prima. È bella, la mia è grande, ne avevo un'altra più piccolina, però scaldava quanto è questa, a chi la vuole, ha giubilato e l'ho regalata a Rita, l'amica di mia moglie, che la stava ammazzando la bolletta elettrica, ha detto, sei figlia di Dio, va, tanto se la vedo in cucina non la usavo mai, vuol dire. Sì, vabbè, poi io, e infatti quello lì che... che non attacco di manco e ce li ho messi. Solo che questo riscaldamento che l'hanno attaccato basso come temperatura e dice che poi l'inquinava perché si è scattato qua e non ho riscaldato nulla, prima addirittura ti facevo il rosso in casa e mangiettina, adesso questo riscaldamento non riscalda un capo. Ma consuma di manco l'hanno abbassato, bastardi, altro che l'amministratore gli suoi l'ha rigurato basso, ha consuma di manco, non ha compreso. Siete cazzicati. Vediamo. Ma Sarico, lo stiamo dicendo piede lei, no. Oh no, no, ho quel circuito là. Volevo chiedere, ma questo è il libro che manda l'aria a casa, no? All'inizio che l'accendi ha odore o no? E anche alla fine quando accendi ha odore o no? Ah, non lo so, quelli ad aria calda io non ne ho. Ce l'aveva mio fratello, però non so se andava o se non andava. Aria calda mandano, quelli che hanno la ventola e ti mandano l'aria calda. Perché questa, come tutte le cose anche a kerosene, per dire, no? All'inizio fa odore, la metto in bagno, apro la finestra, la lascio 10 minuti che la fiamma salga, poi abbasso la fiamma, la metto giù e la trasporto in corridoio. Capito? Chiudo la porta del bagno, ma lo devo prendere in casa. Quando la spegni fa poco odore, poco, però è meglio sempre aprire la finestra, perché c'è un tipo di amalgetta dell'odore. Quella elettronica non lo so come funziona, io di persona non ho mai visto accendere, già niente di sai. No, il tumore non è fatto da lì, ma l'ha presa ultimamente, l'ha presa da poco, penso di quelle le ultime uscite. Quando metti il libro sì, un po' di odore si sente, ma quando funziona no. No, quando funziona no, non fa niente di suo odore, ma sai perché? Io uso il libro blu, isoparaffina, proprio libro blu. Molti per risparmiare usano il libro rosso, proprio l'etichetta rossa, però ti devo dire che il rosso l'ho provato e sentivi appena di odorino. Costa poco, costa abbastanza bene, abbastanza poco, detto. Però quanti piatti, a me veniva la di testa, invece il libro che serve blu si chiama libro cristal, è praticamente inodore. va e fa l'andare a cherosene, ma ci fossi io. Facciamola là subito, la cosa basta la fiamma, e non ne va di fiamma. Ma che cherosene lo fai andare? E allora, questa la mi dai? È la stessa cosa, funziona bene. Certo che funziona bene, basta venire qua, la vedi. A cherosene la mia, la mia, la gestione di cherosene. Se dopo non voglio andare a gestione, andrò al distributore, pago un euro in più e mi rubo il distributore di riconti. Capi noi. E allora? Ma c'è sempre questa storia di devi andare a prendere, un casino. Anche il pellet, per dire, il pellet consuma poco, però devi stare sempre con i sensati, i carretti, il vento. Così tu il consuma poco, rubellet, e da poi passati i sacchi, cazzo, secondo che piano stai. Tu pure lo zibo non devi andare a comprare a titolo, ma te. Quando lo fini tu lo devi andare a comprare. Io vabbè, lo so. Ma i titoli sono più piccoli, dai. E io vabbè, i cioccoli devi fare il contento. Di dove? Ma il fatto è che devi stare con chissà pompa, ui. Per trasferirlo dal bidone al serbatoio, deve stare con quella pompa tipo quella per il vino, là. 20 litri da tanca. Ma come non aggiungi problemi? Non c'è problema. Quando io ho la pila, vedo nella finestrella, quando vedo che c'è il cotta, subito mi la cavo e manco una goccia in terra. La prima volta mi fregava, capito? Ma io me lo ricordo, mamma c'era la stampa che lo sera, prima c'era il volo a legna, e chi si è cambia verde, solo che quando c'era aperto il contrario entrava più fumo in casa. Ma c'aveva il pro e il contro, c'aveva la ricchi, quella ricchica, perché c'aveva i circhiti, ma c'aveva la roba russa, una, era buona la roba, il forcetto cucinato dal fuoco, lui. E a me lui, erano i burri cugini a legna. Vera, ne chi tira via mia nonna, ce l'aveva quella non era, la cucina proprio aveva a legna. E anche mamma quando si è sposata, tipo giorno di notte, mio padre l'ha trovata piangendo perché non riusciva a accendere il fuoco, non è riuscita a cucinare, capito? Lui già ha imparato, poi già sono cambiate le cose anche, ma per dirci. Noi, mamma, quella lì, la cucina economica, quella che si attaccava, c'erano i braccetti del tubo e ci appendeva la roba per asciugare, la biancheggia. Dopo c'era il forno, potevi cucinare al forno come il forno normale, oppure c'erano i cerchietti sopra, tu ci mettevi la graticola, sopra il cucinavi la graticola, ma c'era una cosa di lusso. Io in campagna avevo il barbecue invece a legna. Pure un bollo mi facevo a russo quando facevo in chivi, cazzo. L'allegria di mia cognata, che diceva fumicavo la roba. Un cazzo nessuno mi diceva, pigliava a finire un fuoco io e mi facevo la roba a russo, a suo che. E già me lo ricordo la volta era deminata, che insomma è qualcosa perché aveva speso la roba e sono pubblicato, se ho dovuto entrare dentro la mente glielo dico. Ma da poi sparato un burro marito al profumo, no? Ah no. Io una volta ne sparato a cazzo di pelliccia carbonara con Franco da Bonanima. A chi un po' di voi si invitavo a pranzo. E si cucinava la mia roba a livello, dal profumo ne farà da a Giosuetta. E vabbè, tempi che furono. Ah, io la pensavo la roba me la cucinavo di lusso. Vabbè, e mi lo potevi fare, sai che figlia. Sono due da scherzi a cosa, ma per il resto potevi fare quello che volevi, in campagna tu era una sta cosa. E te credo. Non ti dia sia, non ti dà sia un piatto di minestra che fa tu via. Cazzo, mi dovevo cucinare su, è uscito dal travaglio, arri lui e mi dovevo cucinare la roba. Mi dovevo cucinare. Non ti invitava mai, mai. E allora io, già fatto, c'è che soglio mi fa non sono tutti, no? che hanno un pensiero gentile. E infatti, io se avevo cucinato qualche cosa di loro, l'avevo invitato, io lo sai che io non sono di quelli affari e cosa, io condivido tutto, non me ne sbatte nulla, se invitavo a Franco, se invitavo poverino Rizzo e Mosca, ha avuto un incidente che ha un chili da camionare ed è Mosca, ed è lui che mi aveva insegnato a cucinare, perché prima io non sapevo cucinare niente, qualcosina, ma chi mi ha insegnato veramente a cucinare è lui, e lui sapeva cucinare bene, ma la sorte. Ecco, papà, sai, disegnava pure bene. Mi aveva insegnato lui a cucinare. Ho detto, vario Ruanone di Luzzo, io cazzo, che mi ha giudicato a Dubocco, a chiesa andava a Marco, ma che su, andava. E allora qualche bottiglia già gliela dato anche a lui. Poi ci ha tirato in più la braccia, così mamma tua gli ha mangiato due uomini. Io non lo so che cosa ci faceva con la zona, adesso che non ci passava mai. Ma a usare gatta o che aveva acciappato qualche femmina in chi va poi su torre, che ne so, mai vi passava. Mica la voce che è passato, se scusa, o gli è venuto un infarto che è fulminante, perché Franco già sapeva guidare. Quando ha avuto l'infarto mamma, ma poco con una batteria dalla parete, ha bruciato a Edo anche all'ospedale. Ha lanciato la palla là, si è girata la palla con poco, lo cagli in mano. Mamma, con il fatto in corso si è avvistata della Arturia. Ha chiesto lui, mi ha detto, ma chi erano quelli che in realtà non erano, erano della Croce Blu, non erano del Ciso. Chi era Franco Papetta? Guarda, era l'ufficiale di Rosa Gatti. Cosa tu l'hai conosciuta la tariffa? No, ragazzi. Allora, di Rosa era la figlia del giardiniere del Sacro Cuore, della chiesa del Sacro Cuore. E Ruapu ogni cosa ti dice al gatto. Rosa al gatto, dammi la casa, andata, no, chiamava il Rosa al gatto, il soprannome. Svegliati, sono con mia figlia al telefono. Io Franco forse lo conosco molto prima di te, perché stava a Sacro Cuore qui, ma poi era venuta la Croce Blu e dopo l'ha riconosciuta la taglia della Croce Blu. Io l'avevo conosciuto prima, da un po' di tempo prima, era un ragazzo di Rosa e lo chiamava Ripaperetta per come camminava, forse vicino. Non spreggia che lo telefono, quindi mi stai dicendo, ma cosa c'era? Baracchino parlava, boh, com'è? No, non aveva Baracchino. Era uno che praticamente era autista di ambulanza. Perché si chiamava Paperetta? Non c'era via, ripeti a Disegnetti? Aveva un modo di camminare tipo Cernicino. I piedi a Cernicino ci avevano capito. E gli annocchi ha portato la gente da Mario Benitondo, che la metti, che la via rimedia, la dite e detti. Poi c'era Grillo, non so che lo muovono. Non so. L'unico che camminava bene, che proprio c'aveva i piedi dritti, era la Befana. Ogni volta. Prima ci invidiare i rimonti da Pugliese. Il problema è quando le facevano male i piedi a lui. Si pigliava, allora c'era Mastro Gerolamo, non so se te lo ricordi, via Libia, no? Il calzolaio, era sempre in chiva che si comprava le volte o gliele davano eccetera, no? Le apriva davanti, capito? Quindi da rivolte faceva di Sanda lì Mastro Gerolamo. Ma io adesso in via Libia ho conosciuto quello che è di Geova, quello è agli occhiali, che viaggiava come in fumo a questo, quello che c'è in via Libia, però Mastro Gerolamo non lo ricordo. Niente molto, quindi già da un bel po'. Aveva un tumore alle gengive e alla bocca. Io mi ricordo Mastro Gerolamo. E mi ricordo che quando niente lavorava a Giostra, vicino a casa, a Sassari, avevano passato i pantaloni, gli avevano messo tutto il tacco, quello che si mettono le gomme dell'autoscopo, gli avevano messo col pennello quel tacco, si è incattato un paio, ha cominciato a pulire. Sono Salvatore Cornaletto che c'era, adesso sarà morto, c'è Salvatore Cornaletto. Sì, ma questo Geromo te lo ricordo che era dietro il comune, era lì, proprio lì dietro il comune, un angolino, era, cos'era questo Geromo, un marito di 20 anni volte, in piazza, altrimenti. Ora ce l'abbiamo uscito, ma adesso c'è un altro di calcolaio, nello stesso punto che mi stai dicendo. Praticamente tutto in acqua lo rimane, dai. Ma se già non muore, l'unico gobbo forse togliere con la stampella, te lo dico, ti mancava un'anca. No, ma là non lo conosci. Forse non lo conosci. Beh, comunque, in altro cazzo ti dicevo il piccolo. Ah, io 6 gennaio a Ticcusi. Cazzo che mi incantava. Ah, sai, quando buttavano, lui faceva anche il turbino, praticamente stava la discarica, quando andavo a buttare il cartone, sai, quelli del pesce buttavano il pesce pescato fresco per non abbassare il prezzo, ce lo buttavano via e se lo pigliavano, ci prendeva, diceva, ah, aspetta, non lo buttare, dammi la cassa a me, no, ce lo buttavano una palla, poi tu sei due, te lo pigli da terra. E non ti nuda che ti avevamo fatto pigliare, sino si incattano, perché praticamente non volevano diminuire il pesce, ma il pesce fresco, che altro ha pescato. Io me lo ricordo, già lo so che faceva nel turbino, chiamavano in comune, ha fatto il portabagagli giù a Porto Torres, capito? E già ne ha fatto lavoro con l'uomo, già ha lavorato, poveraccio, non so se è morto, già, non lo vabbè, io poi preciso un poco, però non lo so. Avanti Marco, riprendi. Questa parte in compagnia di Sparviero, Marco Rattapignara e Natalino Fogo. Vai per chi vuoi. Capo, adesso dove ti trovi? Ti stai abbassando di tutto. Aumenta, aumenta, aumenta. Capo, dai Claudio, vai tu per la vita. Marco. Guarda adesso, qua ascolti l'amico di Campomera. Kappa. Dove sei? Direzione Charlie Alfa? Ah, Kappa, ho capito. Come ti chiami? Non ho capito il nominativo. Kappa. Capito, dai. Guarda bene. Comunque adesso stai venendo verso Sassari, non andando verso Cagliari, così confermi. Ah, Kappa, dai. Natalino, ascolta. No, lei ha finito. Io sono la terra bassa e molto bene. Non so se mi sente, non so se arrivo lì. Ciao Marco, buonasera, io sono un po' fuorizzato, no? Non è che ne ho per voglia di parlare. Giusto per salutarti, anche tu sei 9:10, abbondante. Però purtroppo qui ti vedo, la centrale la vedo, dai, di tua aghe, quindi arrivi fortissimo. Marco, lo senti a Marco? Sì, un po' mattino, ma arrivo un po', 3, 4, 5, dipende. Un po' bassino, sicuramente non mi sentirà. Oh, sparendo il tanto. No, già ti senti, allo svincolo lì di Saccar, già capito, già ti sente Marco, c'è problema. Vai Gianni. Si sta passando anche qua Marco, dai. Non so se mi stia ancora ascoltando, vabbè. Però io ascolto passo passo. Avanti dopo Marco. Dove abiti Marco? Proprio lì tra Berchida e Oschi. Non capivo mai, c'era anche l'altro giorno stavo andando a Nulvi e ho fatto quella strada, non capivo di chi era quell'antenna, sì, no, c'era il fornitore lì, ho capito, è un fossettino, sì, e vabbè, ma come siete, siamo di fronte uno all'altro, non è che non ci sono problemi, loro rimangono più dentro la città, capito, io sono fuori città, quindi per quello, oggi arrivano bene tutti, dai. Sì, della gente che c'è rimasta, io siamo quattro gatti. Natalino, vai, comunque ti saluto anche Natalino che c'ha l'antenna bassa. capito. Centro storico, quindi non ci arriva lì, vai nata lì. E cosa mi mandi avanti? Non mi ascolta? Poi sono con un blatto anche, capito? Non mi ascolta per quello, perché esco pazzo. E no, infatti, è perché sei con un vatti, se no avresti ascoltato. Ma mi avrebbe ascoltato? Eia! C'è il QRM che c'è, però, siamo il QRM. Sei già arrivato, Marco? Eia. Non l'avete sentito adesso? Già l'hai sentito? No, forse già non ti ho sentito. Marco, tu l'hai sentito? Ciao Capri, buonasera, un po' ho messo male, sono di voce, un po' di influenza, ma comunque, già va bene, dai. Ehi, tu sei vicino, però io sono lontano, già lo penso benissimo qua, mi sentavo 9, 8, 9, sempre, non ci sono problemi. Ok Capri, buonasera, ben entrato, ti faccio salutare da Gianni del Open Room, avanti a girare Gianni. Ehi, ciao Capri, ti sento, buonasera. Io me ne sto andando a portare il traffico, ma vi saluto tutti cordialmente. Non lo trovo un quarto, non ho fatto l'ora, ci sto qua. Avanti già. Aspetta, oh Gianni, guarda WhatsApp. Guarda la zappa, guarda la zappa. Avanti Capri 2, riprendi, cambio. Vediamo il PMR, non bruciare, è un PMR da 15 watt, capito? Io poi in PMR non ci parlo, io parlo nell'PD perché è una frequenza secondaria amatoriale, quindi è più fattibile parlarci, no? In PMR non è che ci traffico molto io. Tutto qua. Avanti Natali, lo senti a Capri 2? Stavo parlando con mia moglie, no. Avanti Capri, guarda a vedere se ti sento, va. Negativo. Sì, ce n'è meglio di quelle. Ce n'è meglio di quelle. Vediamo un po'. Marco, dove sei arrivato? Sei già arrivato a casa? Ciao, ciao Marco, quando ci senti entra a salutarci, ci fa piacere, dai. Avanti Capri. Tutti su WhatsApp siete? Gianni, Marco. Marco Condor. Io gioco tromento, non si chiedono gli occhi. Marco Lassallo, rovino, anzi amaro. Non ne abbiamo amaro, lo dobbiamo prendere dopo l'uno, che è da 18. No, mi sta venendo la pioppetto. Cioè, qua c'è un po' di freddo, visto Natali 2 e 22 gradi, lo sai quanto c'è da 70? 16 gradi. Freddo, quindi mi sto rannicchiando e mi sta venendo la biocchetto. Vabbè dai, casomai chiuso, dai, vediamo dai. Non l'ha sentito, no. No, non ho voluto accendere, tanto la giacca, dai, se no è uno spreco. No, io ho il riscaldamento acceso, qua ci sono 23 gradi e non ho problemi, sono in abbastanza leggero nonostante mi sento male perché c'è un caldo allucinante. Deia, mi è arrivata la metà Marco? Sì, ha già posteggiato tutto, parcheggiato, tutto a posto, e lì sotto la collinetta di Praga, hai capito? Vabbè, sì. Vabbè, forse chiudo anche a breve, là. Vediamo. Quanto le manco sveglio. Tu sei? Sì, sento qualcuno parlare sotto, chi è? Ah, Gianni. No, io ho sentito un... No, io ho sentito un tono 1750 forte. Ero io. Era il mio. Aspetti, ho ascolto, dice Vittorio, ho ascolto a te. Cosa mi hai detto? Ti ho detto che ero io col tono 1750. Ah, via. No, Gianni qua non arriva perché non può arrivare qua, eh? Poi il ricevitore più sordo, capite? Il ricevitore non è sensibile come il Bao Bao, ma il servizio Bao Bao, esiste il Bao Bao, che è un albero, esiste il Bao Bao. Sì, già lo so. Neanche per me che qua c'è un casino. via. E via, ciao Gianni, oddì. Ehi, c'è un po' di fresco, mi stavo rannicchiando, mi stavo calando le palpebre, dai. Ehi, non sapevo andare, perché tanto poi all'estamento già faccio il caffè a mamma, magari mi mangio qualcosa, una cosa così, uno snack, vediamo. Ok. Ascolta, ma Antonello di Orsi, tu non l'hai più sentito? Ma potrei anche chiamarlo adesso. Attenzione, Antonello Barracuda, sei l'ascolto? Non lo sento da un bel po', da parecchio. E lui c'è conettato, cioè spesso ascolta, ma non entra, boh. Non dovrebbe entrare più spesso. E vabbè, dai. C'è uno dei pischia. Come è andata lì? Ho sentito uno che fischiava. Là? No, qua. Ah, no, no. Io sento capri due così, ho saltato. Non avevo saltato prima. Bene. Comunque arrivate di bene, dai. Una valutazione straordinaria, come diceva. Spero che si poteva fare. Straordinaria. Stavo guardando tutte le foto, mi sono guardato queste. Ah, belle belle, bel colore di tassi, no? Insomma, una bella bestiolina, però cioè, mi viene là. Ma se mi bruto le mani poi mi spendo i soldi lì ancora in tassi, no? Non le devo comprare. Fregatene, quello che c'è tu va benissimo. Oh, tanto una cosa di... Vedi il PMR, quando ho ascolto voce, stavo per strappare. Dicendo strappate, anche quel giorno che ti ho mandato quella registrazione breve. Ho sentito strappare, questo perché? Perché voi siete in infermeranza e i vedi il PMR sono in infermeranza. È uguale l'emissione. Infatti. Anche con questo qui posso allargare o stringere. Eia, eia. Poi sì, io già faccio in fretta poi. Invece sul PMR non lo so come ce l'abbiamo regolato gli apparati. Che sai, un po' qualcuno non lo sa regolare, oh, lo usa com'è. Ok. Gianni, sei ancora? Sei andato via? Sei portato il cane? Sei ancora? Ehi, ci sono ancora, se mi lasciate lo spazio vi saluto e vi auguro un buon continuo crescere. Dai, che devo scendere con te perché si sta già... La mimula ha fatto, pure Romeo, si durese, fase la mimula, infatti io gli dico, mimula di Bonino, cur. E sentiamo, io che andiamo oggi un weekend come mi riguarda, è proprio buon prezzo. Vai che capisce tutto quello, capisce tutto, perché sono intelligenti. E a me cata, ma Baita quando fa vedo mi guarda ascoltandomi quello che dico con mia moglie. Vabbè dai, vi saluto anch'io tutti che devo preparare qualcosa per cena. E ci sentiamo alle prossime, grazie per la chiacchierata, dai. Salutone a tutti, anche la mia moglie. Non so se l'avete sentita, salutone a tutti. Grazie coach, saluto una chiacchierata. Ci sentiamo, buona serata. Ehi, ciao Natalia, buona serata, buon tutto anche. Va bene Gianni, ricordati di staccare, sei stato una passeggiata. Ah, oggi è stata. Non parlo perché siamo poi usata per una giornata tranquilla, siamo andati a mezz'ora, tua mamma, insomma. non si è vista il mio figlio, è stata una giornata meravigliosa, ci deve essere già. Ti volevo dire, stai attento quando c'è la sera prima che ti butti tutti gli apparati. Forse a farmi ributtare. Ho detto, non lo può vedere la 27. C'è una perdita di tempo, capito? Cambiare due chiacchiere, così per passare le... Due chiacchiere in compagnia, lei è una perdita di tempo, infatti non ha niente. Insomma, qualcuno ce la mano... alla caia. Come dici, ma anche su carattere, mai fuori. Perché uno può avere dubbi, è allucinante. Vabbè, sono anziano, non capiscono queste cose, non le hanno mai visto, non le apprezzano per quello, dai. Potrebbero apprezzare solo un momento di calamità, di cose che sono l'utilità di questi apparecchi. Lei va d'accordo con l'onore legge, va d'accordo, bella coppia. Per carità, passa via, comincia già, passa via. Tieni, prego. Oh, non mi dice, adesso mi quella che campa da me, paga le bollette, paga questo, non fai neanche da fare le visite. Ma non ce lo fa pesare, lì perché ci sono, se dite i vecchi. Stanno per farti essere tutto o crappa e vedrai che glielo lascerà, farà come Dio Michelino che ha lasciato lì, non ha lasciato niente, chi ha lasciato, non ha lasciato niente, i parenti ha lasciato tutta la serva. E deve essere che per la serva faceva anche altro. Chi lo sa, sì, proprio per il picca con i parenti, non so, le figlie, le figlie, ha lasciato tutta la serva. Io un chierino, non ho da apparente la sola che fa. Bene, bene, bene. E mi sa che si già chiuderà. Tanto non era nemmeno voglia, avevo un freddo in occhio, ma... Non so se si spinge. Perché si giro tutto adesso. Non voglio sentire uno spiffero d'aria. Buonanotte Marco, dai Stefano, di questo pianeta, vedi la bisogna. Ci sentiamo, dai, apri, non lo sento tutto un po' in alto mario, dai, ero stanco, mi sono riposato un po'. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao, Gianni, ciao, buon pomeriggio, dai, ci sentiamo.